E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. È un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La zanzara di Giuseppe Cruciani. Ormai non siamo solo agli stracci, siamo a una situazione, a un punto oggettivamente di non ritorno. Poi adesso si metteranno in moto i pompieri, ma vedrete, non ci sarà niente da fare. Basta leggere non solo l'intervista di Italo Bocchino questa mattina a Repubblica, in cui dice: se Fini si deve dimettere, allora si deve dimettere Berlusconi, altri ministri, Bertolaso, eccetera eccetera. Ma basta leggere le affermazioni di oggi sul Fatto Quotidiano e successivamente alle agenzie di Carmelo Briguglio. Per esempio sul fatto che i deputati finiani, in particolare Bocchino, sarebbero pedinati e spiati. Non c'è dubbio che l'onorevole Bocchino, per esempio, che il nostro capogruppo alla Camera, sia stato spiato e pedinato. C'è una denuncia e una indagine della magistratura e c'è stata un'audizione del Copasir che ha portato ad una inchiesta interna. Aspettiamo le conclusioni. Che voglia neo. E poi dice: Berlusconi ha il dovere di dire agli italiani come acquistò la villa di Arcore, dove viveva insieme all'eroe Vittorio Mangano, come riuscì ad assicurarsi per soli 500 milioni di lire questo immobile di 3.500 metri quadri, eccetera, eccetera. Questo un deputato ex PDL, Carmelo Briguglio, che poi dice: siamo in presenza di un golpe senza precedenti. Nel momento in cui assistiamo a una sorta di golpe istituzionale che non ha precedenti nella storia della Repubblica, cioè il Presidente del Consiglio che chiede e opera per ottenere il dimissionamento del Presidente di uno dei due rami del Parlamento, del Presidente della Camera, io credo che si va a rompere la regola aurea del bipolarismo. E da questa meravigliosa Rita Pavone passiamo a Morgan. Buonasera. Buonasera, buonasera. Come stai? Molto bene, grazie. Allora, vogliamo cercare di trovare una soluzione per questo caso di Verona, che sicuramente non hai aperto tu, su questo non c'è dubbio. Bensì, bensì il sindaco. Beh, so che c'è una trattativa, come è normale che ci sia, per carità. Non è che Morgan, poi, se non può cantare a Verona, è bandito. Per fortuna non è bandito dalle altre città italiane. No, anzi, ci sono altre città che hanno avanzato una proposta, nonostante non erano, insomma, non erano state, non erano in calendario, tipo la città di Piacenza, Macerata, sono fatte avanti, insomma, vogliono fare dei concerti. Comunque, ma il problema non è tanto il mio concerto, secondo me, non è un fatto di, cioè, legato proprio a Morgan come nello specifico il mio concerto. Qual è il punto? Io penso che andrebbe un po' estesa in termini generali al fatto che è un precedente un po' strano, una cosa sbagliata impedire la musica in ogni senso, qualsiasi musica sia. Io penso che quando il sindaco ha detto che io sono un individuo antieducativo, diseducativo, che, sì, che sarebbe un esempio sbagliato farmi suonare lì prigione, io credo che invece è molto molto sbagliato quello che lui sta facendo, cioè è un cattivo esempio questo. Io penso che sia proprio Guarda, se pensiamo che i bambini, tra l'altro, una delle prime espressioni, se non la prima in assoluto, è proprio il canto, è la musica, sì. Cioè giocare cantando. Ecco, impedire un concerto è proprio segno di essere un individuo contrario proprio alla vita, alla musica, in senso proprio di espressione dell'uomo. Cioè, io credo che gli intellettuali, gli uomini che ci tengono in qualche modo alla cultura e alle forme di cultura del nostro paese, che appunto è sempre in difficoltà in questo senso, sì, ecco, dovrebbero un po'... Però... Morgan, il sindaco Tosi, che non è sicuramente uno stupido, perché no, lo dico io, non perché tu hai sostenuto il contrario. Cosa dice? Morgan ha un'immagine che è ormai, secondo me, è sbagliata questa cosa, un'immagine deteriorata perché viene da quell'episodio lì. Poi dice anche non ha mai chiesto scuse e questo non è vero. Sbaglia, perché in realtà io poi ho chiesto scusa e ho fatto anche l'intervento porta a porta dove io approfondisco la questione dicendo bene che non erano state le mie parole quelle scritte nell'intervista, io avevo avuto tutt'altra intenzione, tant'è vero che io avevo richiesto la cassetta che non mi è mai stata data la registrazione e allora a questo punto ho fatto ricorso anche al garante, sì, perché c'erano dentro dati sensibili, non soltanto quelli inerenti al discorso sui stupefacenti, ma anche cose che secondo me non avrebbero dovuto essere pubblicate, come la mia situazione familiare, sì, piuttosto che la questione. E poi hai anche detto che stai iniziando un percorso e che avevi iniziato da diverso tempo un percorso di recupero. Ma certo, e ho detto anche una posizione molto ferma sul fatto di cosa pensassi io degli stupefacenti, quindi a porta mi è stato teso diciamo una specie di tranello, tra virgolette, perché mi avevano detto che se andavo là avrei fatto Sanremo, no? Sì, e quindi sì, hanno detto, io sono andato anche perché ci tenevo particolarmente a chiarire, poi questi non mi hanno manco fatto fare Sanremo, cioè nel senso hanno sfruttato benissimo la cosa da un punto di vista di promozione per Sanremo, ecco. Per cui, ora cosa si può fare per cantare a Verona? Cosa si può fare per cantare a Verona? Non perché, allora, ripeto, io direi una cosa, me non importa tanto il mio concerto, mi importa però che io sto suonando con un'orchestra, siamo in 25 elementi e queste persone per esempio rinunceranno, cioè se non suonano, ecco, perderanno il lavoro per una sera, loro hanno tutti famiglia, così come degli operai che vengono licenziati, loro sono dei musicisti che professionisti suonano con la mia, in questo momento nella mia tournée. Impedire la Morgan il concerto vuol dire anche, ecco, diciamo, fare rinunciare a una serata, quindi all'incasso, sì, queste persone. Però lasciamo perdere il punto di queste persone, per carità, è importante. Però io sono sicuro che se c'è un passo da parte di tutti e due, da parte di tutti e due, sì. No, un passo avanti. Allora, probabilmente il sindaco vorrebbe, non lo so, glielo chiederemo, allora, magari domani, un messaggio forte, non in questa sede, perché non ce n'è bisogno, magari sul palco, avere un messaggio forte contro la droga. Ma volentieri, io guarda, che io lancio un messaggio contro la droga è una cosa un po' stupida, devo dire. Perché? Allora, ma perché io mi sono espresso in determinati, se si vuole essere intelligenti, analitici, a fare un discorso, diciamo, prendendo in mano, cogliendo l'occasione del dibattito che ho avanzato io sul discorso farmacologico, a me va anche bene approfondire, non credo che l'Italia sia stata, devo dire purtroppo, all'altezza della situazione o alla bassezza, non lo so, perché ne è stato fatto uno sciacallaggio da quella cosa, per cui io non voglio tornare sull'argomento, perché ho visto che non c'è la preparazione adeguata per riuscire a essere privi di tabù, essere anche un po' superiori e ironici, riuscire ad affrontare determinati argomenti con più leggerezza. D'accordo, allora quando il sindaco dice che Morgan danneggia i messaggi antidroga, come si può rispondere al sindaco? Come vuoi rispondere? Morgan, ma non deve dare né pro né antidroga. Morgan ha parlato di un suo problema, si è aperto, diciamo, la sua emotività, la sua psiche, la sua problematica, così come fanno molti artisti parlando di sé anche nelle loro opere, in un certo senso. Sì, allora Lou Reed che ha scritto Heroin, allora John Lennon che ha scritto Everybody's Got Something to Hide nei Beatles, oppure Vasco Rossi cosa fa? Non dovrebbe più cantare proprio per sé. No, Tosi dice che là in quell'occasione c'è stato un messaggio negativo in più. Io non sono d'accordo, lo sai, Morgan, lo so, però ce la cantiamo io e te. Anche subito con la ministra Meloni, non so se vi ricordate, immediatamente la, diciamo l'indomani di quella uscita disgraziata, sì. Io ho fatto un'intervista radiofonica dove alla radio della, dove interveniva, c'era con Pierluigi Diaco. Sì, lo ricordo, alla radio del ministro Meloni, sì, Radio Gioventù, non so come si... È stata molto esaustiva quell'intervista, devo dire. Comunque, io credo che il sindaco faccia il compito, io vorrei avvicinarmi a lui invece, perché egli possa avvicinarsi alla musica. Il problema degli uomini politici in generale anche è completamente, diciamo, ignorare. E allora cosa vuoi fare? Lo vuoi invitare? Assolutamente, sarebbe bellissimo se lui venisse al concerto, così capirebbe non solo che il concerto è bello, ma che io non sono diseducativo, anzi, che sono una persona che ha una forte moralità per quanto mi riguarda. Dunque non c'è bisogno di lanciare messaggi antidroga, secondo te? No, sempre c'è bisogno, d'accordo, ma in questa occasione... È ovvio che c'è bisogno, no, ma certo. Io non sono un ipocrita. Faccio un discorso legato alla mia problematica. Di certo, poi non è che ogni volta che vai a fare un concerto devi fare un messaggio antidroga, sarebbe ridicolo. Io non sono un predicatore contro né a favore della droga, io sono uno che si esprime a seconda di quello che è la sua sensibilità, perché devo essere usato? Sia pro che contro la droga, io non voglio essere usato. No, ma guarda, con me sfondino, con me, un paladino, sì, dell'antidroga, non ha senso. In collegamento con Morgan, con Marco Castoldi, per cercare di capire, per carità, non è che vogliamo fare avvicinare il sindaco di Verona Tosi a Morgan, anche se mi piacerebbe, devo dire la verità, perché so che il sindaco è una persona ragionevole e non c'è una ragione, una per impedire a un artista, qualsiasi artista, lasciamo perdere il caso di Morgan, di esibirsi perché ha fatto una confessione, perché ha fatto un'intervista, eccetera, eccetera, tutto quello che sapete. Non c'è una ragione, una, se non la volontà di finire sui giornali, eccetera, eccetera, cosa che abbiamo rimproverato l'altro giorno al sindaco. Però c'è un'altra cosa che voglio chiedere a Morgan. Io credo che intentare una causa giudiziaria per imporre a qualcuno di far svolgere questo concerto sia una cosa sbagliata. Hai intenzione di andare fino in fondo su questa cosa o no? No, assolutamente. Io ho pensato bene alla cosa e credo che sarebbe una ennesima battaglia, una guerra, una cosa troppo accesa che non porterebbe a una soluzione, perché invece a me qua interessa riuscire ad arrivare a un dialogo, a un avvicinamento, perché sono una persona concreta che ha voglia di realizzare determinate cose, di realizzare gli obiettivi, quindi non di essere, come dire, di portare in tribunale questa cosa, non ne ho alcuna. Io penso che il sindaco dovrebbe, secondo me, avvicinarsi un po' alla musica, alla mia poi come pretesto, ma più in generale, essere una persona che non soltanto non lo vieta, ma lo favorisce un concerto, cioè che investe su queste cose. Scusate, perché allora voglio fare dire una cosa al sindaco. Noi sappiamo, perché l'abbiamo preso dai giornali, che Morgan è in trattativa, per esempio, per avere una parte nel programma di Dario Bignardi il prossimo anno, le invasioni barbariche. Allora, seguendo la logica di Tosi, anche i dirigenti della Sette dovrebbero dire: no, Morgan è un cattivo esempio, non lavora con noi. Il che naturalmente non è così, sì. è una follia. Per cui, insomma, ma vogliamo far fuori questo uomo qua, cioè questa persona Morgan, cioè per una volta che ha fatto magari anche, diciamo, una cazzata nella sua vita, vogliamo crocifiggerlo? A me sembra assurdo, anche perché io ho anche una causa, non so se sapete, per la decadenza della patria potestà, no? Sì, io per quella cosa, cioè subito si è elevata pure la madre di mia figlia dicendo: allora gli togliamo la figlia, intelligentissimamente, no? E, ma a che punto è la causa? È a favore mio, però io dico, cioè adesso stiamo aspettando la risposta del tribunale, ma però dall'altra parte mi chiede di dare 2000 euro al mese, no? Quindi allora cosa fai? Mi togli la figlia, però devo dare 2000 euro? E mettiamo, io dove li tiro fuori se i soldi, se continuate a togliermi il lavoro? Non faccio il fatto, non ho fatto Sanremo, non vendo i dischi, non faccio, cioè insomma, allora vogliamo uccidermi, cioè, ma che senso ha? Ma cosa credete di fare? Ma con la Sette a che punto siamo? Si chiude questo contratto o no? Spero di sì, credo proprio di sì, siamo a fase finale della trattativa. Luca Telese, in collegamento con noi, Luca. Che devo dire, io sono un grande difensore di Morgan. Siamo tutti e due dalla parte di Morgan, lo so. Ciao Luca Telese. Ciao, buonasera. Ma se ci pensate, è un colloquio su quello che può accadere, cioè una star vetteggiata dai giornali, coccolata da tutti, improvvisamente diventa un reietto da perseguitare. E quindi è esattamente come abbiamo d'accordo. Ti sentiamo male, ti sentiamo malissimo. Tu dici diventa un reietto, una persona che prima, la prima edizione di X Factor, esaltato, eccetera. Adesso, improvvisamente, per un'intervista che ti diventa un reietto. Sì, è così. Purtroppo così. Va la... Ma la qualità con cui facevo io la televisione nessuno se la ricorda, eh? No, tutti si ricordano ormai l'intervista. Infatti, cosa ha detto di... non dico di sconvolgente, insomma di significativo l'altro giorno Luca Tosi. Cosa ha detto? Ha detto una cosa molto semplice. L'immagine di Morgan ormai è quella. Io credo tra l'altro che non sia così, Luca. Ma Morgan non è un diseducatore, non è un apologeta della droga. In un'intervista ha detto una cosa che secondo me fatto era sincera e vera. Una cosa che dovrebbe far riflettere in questa società. Non dobbiamo temere come la verità come se fosse il demonio, e invece questo è accaduto. Abbiamo paura di raccontare il fenomeno della droga, della dipendenza dalla droga, della diffusione di massa che c'è oggi della droga nella società italiana, se è vero che anche nelle foci dei fiumi si trova una concentrazione di cocaina. Però lo dico senza aver mai fumato neanche uno spinello. Bisogna unire il reprobo per montare tutta la società, ma qui siamo dalle parti dell'esorcista, capito? No, ma è così, certo, poi secondo me Morgan, andando proprio a rimbangare quell'episodio, potrebbe avere commesso una leggerezza, magari non si è reso conto di essere diventato quello che è diventato per Rai 2 e per tanti ragazzini, ma lasciamo perdere questo argomento, l'abbiamo già esplorato. È diventato quello che è diventato, voi. No, ma l'abbiamo già esplorato mille volte questo argomento, i tuoi errori in quell'intervista, eccetera. Lasciamo perdere, non è questo il punto, capito Morgan? Non andiamo a ripescare quelle cose. Invece vorrei ricordare come mai io sono diventato magari un punto di riferimento per la musica, per la musica, credo, per la musica. Come mai in base alla cioè così, perché dall'oggi al domani si sono innamorati del mio ciuffo? Io non penso. Io non credo che sia un fatto esteriore. Io credo che dipendeva anche dal modo in cui io affrontavo l'argomento musicale e la qualità che portavo. Cioè, scusa, nessuno adesso mi vuole attribuire che io come dire, un merito di comunicazione diversa rispetto a quella che eravamo abituati nella musica. Cioè, tant'è che persone come Francesco De Gregori hanno deciso, o Ivano Fossati, che sono alti, a livello musicale molto alti, hanno deciso di venire in un programma come quello, che normalmente senza di me non sarebbero venuti. L'hanno fatto perché c'ero io come tramite. Allora Luca, lo sai una cosa che ha detto Morgan prima, quando tu non eri in collegamento? Ha detto che probabilmente dall'entourage di Tosi, io l'ho saputa questa cosa qua, si chiede per tentare di salvare questo concerto di Morgan a Verona, si chiede un passo di Morgan, che sarebbe probabilmente un appello magari lì a Verona contro la droga. Lui dice, io perché mi devo prestare ad un appello contro la droga? Sarebbe, tu che dici Luca, si può fare questa cosa? Sarebbe... Luca. Guarda, sono d'accordo con lui, ci vedo qualcosa di un rituale un po' inquisitivo, cioè deve fare l'atto di abbiura come un piccolo Galilei per... come Galilei, sì. Mi sembra una cosa un po'... Eh sì, no? Pure a me sembra un po' forzato, però io sono sicuro che una soluzione con Tosi, però si può come si può trovare questa soluzione? La soluzione con Tosi è fargli conoscere innanzitutto quello che faccio, che lui è... Ma magari lo conosce, Ma non credo, perché guarda, sinceramente, posso essere onesto, secondo me non sa neanche chi sono. Cioè, secondo me lui si limita a quell'intervista, malinterpretandola tra l'altro. Allora io gli consiglio A, di leggere l'intervista, B, di vedersi porta a porta o anche anno zero e di approfondire l'argomento Morgan, così che lui sappia chi sta, a chi sta negando l'espressione e il lavoro. Ho capito. A una persona che ha una sensibilità che lui non conosce. Posso chiedere un'ultima cosa a Morgan? È questa, è un po' personale, ma penso che me lo posso permettere. Quel percorso di recupero che tu hai annunciato portare avanti da un po' di tempo, anche in quella famosa puntata di Porta a Porta, sta andando avanti con alti e bassi oppure in maniera del tutto positiva? In maniera positiva, direi, sta andando avanti, sì, con delle persone che mi stanno seguendo da tempo e che sono dei medici. Ho un percorso, voglio dire, anche che si può andare a vedere, ecco, per certificato, cioè una cosa pubblicamente credo disponibile, cioè essendo io frequento appunto l'ospedale, quindi, nel senso che faccio una cosa visibile, ecco, cioè non voglio nascondere nulla, si vede questo, per cui a me adesso di andare a fare quello che improvvisamente si redime e diventa il paladino antidroga, diventa il paladino antidroga. Sembra un po' ipocrita, mi sembra quasi sadico come atto. Cioè, cosa puoi credere a me che ti vengo a dire? Cioè, facciamo delle cose utili invece. Cerchiamo di parlarne, come dicevi tu, in modo più approfondito della questione, cioè di essere più capaci di analizzare la cosa e non di giudicarla in modo così lapidario, senza nessuna profondità. Ecco, secondo me, allora, se non si riesce a farlo, come si è visto che in Italia non è in grado, evitiamo di affrontare l'argomento, che è meglio che creare dei mostri. Certo, Luca, lo sai, prima ho chiesto, ho fatto un piccolo paradosso, no? Siccome Tosi ha questa posizione, magari potrebbe venire in mente a qualche dirigente della Sette di avere la stessa posizione. Morgan sta concludendo un accordo per invasioni barbariche del prossimo anno, insomma sarebbe una follia, no? Una cosa di questo tipo non avverrà, perché chiaramente lì si guarda soprattutto alla, no? All'artista e a quello che può dare. Sottopancia o con un cartello al collo, non assumo più droghe, non do il cattivo esempio, ma va bene, appello al sindaco. Non affronto la questione legalmente, non vado alle pandelle, come si dice, però? Vorrei appunto che il sindaco avvicinarlo, insomma, a parlare con lui, per cui magari non so se si può ripetere un intervento magari anche presso di voi con la presenza del sindaco, come avete tentato adesso lo chiamiamo, casomai ti richiamiamo. Arrivederci, grazie. Luca, io sto cercando di fare il possibile, perché veramente penso che Tosi dentro di sé, e anche tu lo sai, dentro di io sé voglia trovare una soluzione. Per carità, non è il caso del secolo, a Morgan sono arrivati altri inviti in altre città, però vorrei che Tosi capisse che pretendere da Morgan che metta il cartello "sono contro la droga", come ha detto adesso, così, è semplicemente ridicolo. Sta facendo un percorso personale, è ingiusto che venga bandito da una città importante come Verona, che è una città artistica, una città in cui gli artisti si possono esprimere liberamente. Negare una sala comunale perché ha fatto un'intervista ed è stato cacciato da Sanremo, cacciato da X Factor, è semplicemente ridicolo e non fa onore al sindaco, secondo me. Grande campagna illuminista della Zanzara. Se Morgan si esibisce a Verona, poi dopo apriamo una società, tipo facciamo concorrenza dei Wizard. Va bene, Luca, se troviamo Tosi e non sei in difficoltà oggi, ci risentiamo, perché magari c'è un incontro radiofonico tra Tosi e Morgan imperdibile. Che ti dicono oggi gli ascoltatori Tullianeide? La Tullianeide, ancora non ho approfondito sulla Tullianeide. Capisci che ora ci vuole Omero, ci vuole qualcosa di epico, cioè sta diventando una telenovela. Fra poco Carmelo Briguglio, però, sui servizi segreti e sulla casa di Berlusconi, perché dice che bisogna fare chiarezza sulla casa di Berlusconi, su come Berlusconi ha comprato la casa di Arcore. Insomma, ha rispolverato una vicenda vecchia, vecchia ma non troppo. Fabrizio da Milano, buonasera. Buonasera. Dica. Senta, volevo fare un'osservazione in merito alla questione dell'onorevole Fini. Mi sembra che si tratti di una polemica pretestuosa sollevata dal Presidente del Consiglio relativamente a un attuale avversario politico, perché, voglio dire, l'immobile si trova a Monte Carlo, quindi sostanzialmente per la legge italiana un immobile che si trova all'estero non è soggetto al diritto tributario italiano, per cui sostanzialmente Fabrizio, il punto non è soggetto o no al regime tributario italiano, se sono state commesse delle irregolarità dal punto di vista fiscale o giudiziario. Di questo se ne occupa la Guardia di Finanza, il giudice o quant'altro. Il punto, come lei sa benissimo, è politico. Certamente politico, è una questione sicuramente di etica, ma è la stessa etica che praticamente il Presidente del Consiglio da 15 anni a questa parte non osserva. Questo può darsi, Fabrizio, può darsi che... Sarà sicuro come dice lei. Il punto è che in questo momento si parla di questa cosa qui, allora vogliamo parlare di questa cosa qui o vogliamo dire senti chi parla? No, perché io... Cioè la sua posizione è senti chi parla, da che pulpito viene la predica, questa è la prima, sua posizione. Prima posizione, la seconda posizione che nella costituzione da 48 d'oggi è la prima volta, come osservava coerentemente l'onorevole, mi pare, Bocchino, che un Presidente del Consiglio si permette di chiedere le dimissioni di un Presidente della Camera che è l'espressione non di una maggioranza, ma sostanzialmente del Parlamento. Sì, però Fabrizio, lasciamo perdere, sono d'accordo con lei, l'espressione... Il regolamento della Camera, proprio per questo motivo, prevede lo scrutinio. Certo, Fabrizio, Fini chiedeva la dimissione della Pivetti quando nel 94 ci fu la rottura della Lega con il centrodestra. Per cui, i regolamenti vengono stiracchiati a uso e consumo di chi li evoca, come al solito. Per cui lasciamo perdere le questioni costituzionali, chi ha diritto. È evidente che Fini non può essere sfiduciato dalla maggioranza, non può essere destituito da Presidente della Camera. Non è questo il punto, non sono i regolamenti, questa roba qui. Il punto non è questo. Tra l'altro, Berlusconi non è che chiedere dimissioni di Fini da Presidente della Camera, come sostengono i finiani, per questioni che riguardano Monte Carlo. Ma, come lei ricorda bene, le chiede dal momento della rottura, di quella rottura che si consumò in maniera plateale durante la riunione del direttivo del PDL. O sbaglio? Può essere. Sicuramente quell'elemento. Devo dire che da questo punto di vista il Presidente del Consiglio ha litigato con tutti, perché prima ha cacciato Casini, poi ha cacciato Follini, poi adesso sostanzialmente vuole cacciare Fini. Tra un po' litigherà solo con se stesso, visto che comunque la sua visione del potere è una visione esclusivamente Fabrizio, poi sul cacciare bisogna intendersi, perché naturalmente sono persone che non è che sono state cacciate, persone che avevano la loro strategia politica. Casini aveva la sua strategia politica, nel 2008 non voleva entrare nel PDL, voleva il suo simbolo, Berlusconi e Bossi hanno detto di no. Insomma, questa è la situazione. Cacciare mi sembra una parola un po' eccessiva nel caso di Casini. Alessandro da Genova, poi mandiamo i titoli del TG2. Alessandro. Buonasera. Buonasera. Io volevo intervenire con qualcosa di più normale. Morgan. Sì. Non mi immagino un X Factor senza Morgan. Vabbè, ormai da questo punto di vista è fatta. Ma però non capisco, mi spiega lei. Ma è l'unico personaggio dello spettacolo che ha avuto problemi con la droga? Ma no, certamente no, è l'unico che ha fatto quelle dichiarazioni. Ho capito, ma lei si ricorda la vicenda Calissano? Sì, Calissano, sì. Calissano, Sì. Calissano ha avuto anche dei problemi giudiziari, sì, e di un po' diverso. Sono andati tutti in soccorso, Maurizio Costanzo e compagnia bella. Ma in soccorso dal punto di vista umano, diciamo. Sì, ma dal punto di vista umano, Morgan? Sì, no, Alessandro, adesso io non so, dal punto di vista umano avrà avuto anche i suoi amici, le persone che sono state intorno a lui. Però a livello pubblico, a livello che possa essere considerato diversamente, oppure nessuno. Guardi, chi lavorava con Morgan probabilmente conosceva i problemi di Morgan e nessuno ha mai sollevato un problema alla RAI per i problemi che Morgan poteva avere e che magari erano abbastanza chiari alle persone che lavoravano intorno a lui. Poi in Italia vige questa regola un po' ipocrita, se fai le cose stai zitto va bene, quando inizi a parlarne iniziano anche i problemi. Grazie Alessandro. 800 24 00 24, questa è la Zanzara, TG2. Ancora tensioni tra PDL e Finiani. Di Pietro apre ad un governo tecnico per la riforma elettorale. Bersani, fronte comune dell'opposizione, ma Bossi dice nessun governo tecnico, subito il voto. Cala l'estensione dei roghi in Russia, ma in Ucraina le fiamme si avvicinano alla centrale di Chernobyl. In fumo i boschi contaminati dall'esplosione del 1986. Un'auto coinvolta in un incidente travolge una carrozzina con due gemellini, la bimba muore, ferito il fratellino e a Vibo Valentia è morto il 12enne travolto da un'auto pirata. Per la rottura di un tubetto di colla una donna di Varazze in Liguria ha le dita di una mano bloccate da una settimana, il solvente le danneggerebbe irreparabilmente la pelle. E siamo qui con una telefonata che ci arriva da Bari, Massimo. Buonasera a tutti. Buonasera. Senta, io sono un eletto di EIN oggi del PDL. Dove? A Bari. Bari dove? Al comune? Sì, al comune di Bari. Cioè lei è consigliere comunale? Sì. Sì, mi dica. Il paradosso nesso di questa crisi che è nata nel governo è proprio perché Fini non riesce ad esprimere o a chiarire proprio la base e i suoi elettori, questa sua presa di posizione. Io che sono un eletto del PDL ex AN, sì, ancora oggi non riusciamo a capire, a comprendere i motivi di questa crisi. Forse sarebbe opportuno che Fini, prima di criticare Berlusconi per il suo comportamento, chiarisca a tutti gli eletti, a tutti i simpatizzanti, a tutti gli elettori di AN che oggi votano PDL, i motivi veri di questa crisi. Cioè lei non li ha ancora capiti, i motivi veri? I veri motivi io li ho capiti, però... E quali sarebbero secondo lei? Motivazioni personali? Totalmente personali. Nulla di politico, perché di serio. A Fini ha avuto l'occasione, quando è stato costituito il PDL, di proporsi come segretario del PDL e lasciare Berlusconi come presidente. Questo lui ha fatto un'altra scelta, quella di essere stavolta alla ricerca di una legittimazione post-fascista come presidente della Camera, cosa che invece non gli è stato soddisfacente. Senta Massimo, una curiosità, lei è consigliere comunale a Bari, se Morgan si dovesse esibire a Bari, lei farebbe l'inferno per non farlo esibire, oppure le sembra la posizione di Tosi un po' esagerata? Ah, è esagerata, no, non un po' esagerata, è quella di Tosi, però è giusto un messaggio che Morgan potrebbe essere un testimonial contro la droga. Ma mi scusi, però lui dice giustamente, perché io mi devo mettere a fare il testimonial contro la droga? Sarebbe ridicolo, non posso girare l'Italia col cartello no alle droghe. Da questo punto di vista lo si può anche capire, no? O no? Che esca col cartello, siamo ovviamente d'accordo. Vabbè, no, ma il cartello per dire, insomma. Però, visto che lui ha fatto questa scelta di ammissione di colpa e di voler redimere, ma i percorsi sono personali, non vengono sbandierati. Ma perfettamente, allora non andava porta a porta. Se vabbè, ma lasciamo perdere questo, ma perché non si può esibire in un luogo come Verona? Ma nessuno lo sta negando. Beh, a Verona sì, a Verona non si a può Verona esibire. A Verona sì, ma però, visto perché... che lui vuole essere la bandiera di questo proibizionismo, è chiaro che deve andare fino in fondo. Ma non vuole essere la bandiera di nulla in realtà, non Morgan. Vuole allora fare il suo mestiere, vuole continuare a fare... Vuole continuare a fare il suo mestiere, che è quello di musicista, appunto. Credo, se non ho capito male, no, è così. Se su questo aspetto può continuare la sua attività, nessuno chiaramente... Però in alcune città è bandito, vabbè. In alcune città non credo che sia bandito. Comunque da Verona è bandito. Verona ha una sua ottica che non è condivisibile. Va bene Massimo, grazie. A presto. Lorenzo da Brescia. Cruciani, dica. I complimenti sono scontati, senta una cosa, io ho combattuto Morgan, ma dall'ammissione che ha fatto questa sera, la coerenza che è ingiustificata una sua partecipazione sul pubblico dicendo io sono contro la droga eccetera eccetera, in questo momento capisco la sua coerenza e l'appoggio. E il signor sindaco di Verona, Tosi, se fosse veramente un sindaco e una persona che ci tiene alla sua città e ai suoi giovani, dovrebbe approfittarne, farlo cantare, farlo esibire e essere lui a lanciare un messaggio di dire da uno sbaglio può rinascere una persona. Questo è il messaggio che noi dobbiamo mandare ai ragazzi, perché mi sembra alquanto bacchettone dire non canta perché ha fatto una dichiarazione del genere. Lorenzo, lei ha detto all'inizio io sono uno che ha combattuto Morgan, che significa? Combattuto Morgan quando ha fatto quella dichiarazione. Ah, ho capito. Dicendo che di conseguenza è stato radiato, è stato allontanato da Sanremo, ho ritenuto giustificato. Poi io non sapevo che Morgan stesse facendo un corso di recupero, ma sentendo la sua trasmissione, che la sento sempre, quando uno con una grande coerenza mi dice è una cosa impossibile che io faccia una dichiarazione del genere sapendo pubblicamente che io ho assunto o sto ancora assumendo le sostanze. Non vorrei dire la parola tossicodipendente perché non so se è un tossicodipendente, però uno che ha fatto uso di cocaina in base a ciò che è stato detto. E il signor Tosi dovrebbe approfittarne e lanciare il messaggio ai ragazzi, perché i ragazzi se hanno degli stimoli si redimono. Non è di certo vietare un concerto perché è sindaco di Verona e può disporre di un'area pubblica con 1000 ordinanze, con 1000 cavilli legali. No, questo non è affatto voler bene a una persona e non è affatto credere in una persona che si ricreda e in una persona che può dare qualcosa e può lanciare un messaggio ai giovani, perché tutti i giovani, io sono padre di famiglia, ho capito. I giovani, tutti i giovani possono recuperare, certo, possono sbagliare e poi recuperare. Ci occupiamo con leggi per il recupero dei carcerati, ci occupiamo con leggi per il recupero di questo, ma un ragazzo che può far divertire altri ragazzi, possono nascere tante cose, tuttosi, mettiti la striscia di colore e vai sul palco, i complimenti di qualcuno che ha avuto il coraggio di essere allontanato dal festival, di ripresentarsi, ma soprattutto anche il dramma umano che vive. Beh, adesso questo, Lorenzo, questo mi sembra eccessivo, cioè dovrebbe andare lì sul palco a complimentarsi. Quelli sono percorsi personali che non hanno bisogno di timbri da parte del sindaco di Verona. Grazie Lorenzo. Proprio Verona, Valeria, buonasera. Prima del traffico, Valeria, ci dica qualcosa. Buonasera signor Cruciani. Io lo seguo sempre per radio, la rincorro su internet. Non mi deve rincorrere, Valeria, deve dire quello che ha in testa. Cosa ci vuole dire? Vorrei dire che mi piacerebbe intanto avere del gossip su di lei. No, ma lasci perdere, Valeria, lasci perdere il gossip. Mi dica qualcosa, qual è il suo intervento? Mi diverte come persona. Vabbè, non c'è niente da fare. La vuole mettere su questo piano. Sì, sì. Vabbè, allora poi? Poi vorrei dire che noi tutti cittadini italiani sappiamo che chi manovra denaro, in questo caso particolare i politici che manovrano denaro, che sono molto attaccati al denaro, alle loro poltrone, allora è normalissimo che si creino delle società offshore con 1.000 euro all'estero, non è che i politici creano le società offshore, I politici sono pochi, ci sono migliaia di imprenditori, di gente comune, eccetera, che crea società offshore. Certo, per cui io personalmente non mi stupirei di cosa? Signor Fini, in tutti questi anni di politica, lui stesso dei prestanome abbiano creato delle società. Ma lei adesso non si mette a fare, non si mette al posto dei magistrati, di chi sta indagando attraverso interrogatorio. Lei dice non si, lei, ho capito la sua fantasia, lei ne ha tante di fantasie, mi sembra. Secondo lei dietro questa società offshore c'è direttamente il presidente della Camera? Non lo so, Valeria, guardi, se ne dicono di tutti i colori in questi giorni. Personalmente non credo sia così. Ieri sera, non Renzo Bossi, Umberto, il padre, alla festa della Padania, anzi di Miss Padania ad Alassio. Siamo in una palude, meglio votare. Se siamo in una palude, l'unica possibilità è andare a votare. Però lì salta fuori la paura di fine della sinistra e dei suoi alleati che hanno paura adesso del voto. Se il gruppo politico che ti ha nominato l'ha fatto andare, non ti sostiene più, beh, se ne va via, si dimette. Queste sono le regole del gioco. Poi noi, le regole del gioco, come si dice, il Presidente della Camera risponde a tutto il Parlamento e non a chi l'ha messo lì. Solo in parte, vero? Perché se non c'era chi lo metteva lì, lui non era Presidente della Camera. Se non c'era chi lo metteva lì, lui non era Presidente della Camera, dice Bossi. Fini, state attenti a questo passaggio, ha venduto il partito a Berlusconi, noi della Lega non lo facciamo. Lui si è venduto il partito a Berlusconi, io non l'avrei mai fatto, io sono amico di Berlusconi, sono anche alleato, però la Lega non ha mai pensato che si poteva dare la Lega a un altro partito, perché poi sono fatti, i partiti non sono dei segretari, i segretari li gestiscono, ma non sono i padroni del partito. E poi abbiamo scoperto ieri sera qui alla Zanzara la passione del Merolone, Valerio Merola, che è tornato alla Rai per Renzo Bossi. C'è una grande differenza di età, però ci siamo continuati a sentire, a frequentare, quando è diventato, diciamo, sempre più giovane di me, ma insomma un giovane uomo, non più un bambino come era quando io l'ho conosciuto, abbiamo continuato a frequentarci e felicemente siamo amici. Siamo felicemente amici. Lo vedo come futuro leader della Lega. Io ho dichiarato, e lo confermo, che penso che il futuro Umberto Bossi sia Renzo Bossi. Il babbo ha non a caso investito il figlio Renzo di questa eredità, lo ha dichiarato anche lui, credo che non abbia sbagliato, perché al di là, ripeto, adesso è giovane, si deve ancora formare sicuramente, deve fare ancora molta esperienza, ma secondo me ha la stoffa del leader. E l'investitura viene da Valerio Merola, eh? Ascoltatori, la Zanzara, 11 agosto, Beppe da Milano. Beppe? Sì, pronto, buongiorno. Buonasera. Buonasera, senta, ho sentito prima il discorso a proposito di Morgan, e sentivo un signore che diceva ma in fondo non si può fucilare uno, perché ma io intanto non vorrei fucilare nessuno, però gli spacciatori in Thailandia sembra che li fucilino e non fanno neanche tanto male. E attenzione, invece, Beppe, mi scusi. Gli spacciatori, per abbia me pazienza, la fucilazione, la fucilazione per uno che è vittima è tutto quello che le do pienamente ragione. No, scusi, Beppe, per lo spacciatore cambia il registro. Ho capito, cambierà pure il registro, ma è previsto un registro diverso anche in Italia per il consumatore e per lo spacciatore. Però non si arriva alla fucilazione, abbia pazienza. Un altro discorso, poi le leggi sono quelle che sono, va bene, ma non era questo l'oggetto della discussione, adesso quello era solo una piccola chiosa. Comunque invece quello che era secondo me è una cosa che non condivido, io condivido moltissimo di quello che dice lei e l'apprezzo perché sono molto in macchina. Allora? Era che lei ha detto ma in fondo è una forzatura pretendere che quel signor lì dica faccia una pubblica ammenda o una pubblica no. Che l'ha già fatto, ma non può girare le città italiane dove fai concerti dicendo io sono contro la droga, questo è ridicolo. No, non è ridicolo perché lei ha detto che è una forzatura, ma guardi che la vita di ogni giorno è fatta di forzature, tutti gli operai, certo, è fatta di compromessi, certo, lei ha ragione, in officina e andare in acciaieria a respirare, sì, d'accordo, è una forzatura, mi e credo. Dunque secondo lei Morgan deve fare un compromesso qua. Deve fare un compromesso, esatto, ma non deve essere gli altri che glielo impongo, doveva già arrivarci lui, c'era furbo anche perché gli conveniva, perché mi sembra di aver sentito che ho capito, ma non si può andare, scusi, non si può mettere, come lui ha detto, un cartello per dire io sono, cioè fare il testimonial contro la droga insieme al sindaco Tosi, questo mi sembra francamente eccessivo. Comunque, Beppe, la ringrazio. Luca Telese è sempre in collegamento con noi, ciao Luca. Sai chi abbiamo? Eccoci. Sai chi abbiamo? Carmelo Briguglio, buonasera. Buonasera. Come sta? Benissimo. Senta, mi sembra che qui siamo a un punto di non ritorno, però, tra Fini, tra il neogruppo Futura Libertà e il PDL, dopo le cose dette da entrambe le parti, diciamo, no? O no? Ma noi ci siamo soltanto difesi e abbiamo affermato un principio che in una democrazia europea... Difesi da chi? Mi scusi, difesi da chi? Difesi da, glielo stavo dicendo, che in una democrazia europea, in un paese occidentale, non può accadere che il primo ministro, chiamiamolo così, il presidente del Consiglio, chieda e operi per il dimissionamento del presidente di uno dei due rami del Parlamento. Però mi scusi, Briguglio, questa cosa qua, le dimissioni, Berlusconi, non è che le chiede oggi dopo questa vicenda di Monte Carlo, non le chiede nemmeno per la vicenda di Monte Carlo, le chiedeva sin dalla rottura plateale in quella, no, in quella direzione, là, in quell'assemblea nazionale del PDL, cioè non è la prima volta che le chiede Berlusconi le dimissioni. Ma la raccolta delle firme da parte del giornale di proprietà della sua famiglia, diretto da Vittorio Feltri e da altra stampa comunque amica o influenzata, che trasforma il giornale in un giornale partito, come veniva accusata la Repubblica, e soprattutto le dichiarazioni di Capezzone, che è il portavoce ufficiale del Popolo della Libertà, fa fare un salto di qualità in negativo purtroppo a tutta la vicenda, che prima era, come dire, un dibattito politico. Ho capito, la raccolta di firme, Briguglio, la raccolta di firme secondo lei è spinta da Berlusconi, promossa da Berlusconi? No, la raccolta di firme è promossa dal giornale che è di proprietà della famiglia Berlusconi. Sì, questo lo sappiamo. E questo lo sappiamo, è meglio ogni tanto ce lo ricordiamo. E non mi pare che lo stesso Capezzone, che ha chiesto le dimissioni di Fini in ragione della vicenda di Monte Carlo, che oggi diciamo nel dibattito è affiancata dalla vicenda della villa di Arcore, che diciamo almeno come metri quadri... lei l'ha affiancata la vicenda? No, è affiancata ormai da tutta la stampa e dalle agenzie che lei sicuramente... Sì, dopo le sue dichiarazioni però... Esattamente, no, sa, perché il tema delle proprietà immobiliari è un tema complesso, è anche quello delle società offshore, per cui almeno a metri quadri dobbiamo... quantomeno ora a dedicare un po' di attenzione agli uni e agli altri. Luca, la situazione secondo me è un punto senza siamo a un punto senza ritorno. Lo senti anche il tono, per carità, è legittimo da parte dell'onorevole Briguglio. Mica la sto prendendo in giro. Giuseppe, perché non capisco se l'appartamento di Monte Carlo è un dovesse essere una macchia infamante per Fini. Perché non lo sia anche la villa di Arcore estorta a una fanciulla che era sotto affidamento e sotto tutoraggio di Cesare Previti e ha ottenuto che il suo avvocato passasse con la villa e con la prestazione professionale dalla parte di... Allora, Luca, voglio dire sia Luca Telese che l'onorevole Briguglio, che lo sanno, perché lo sanno bene, che la vicenda della villa di Arcore di Berlusconi è stata scavata, riscavata, scritta, controscritta, libri centinaia e centinaia di volte. Non in modo sufficiente. Briguglio. Non per il grande pubblico, per esempio, io ero uno, diciamo, che sapeva ben poco, adesso sono ben documentato. È stata scavata tante volte, ma per carità, ma si può... stanno scoprendo la letteratura travagliata. A parte Briguglio, che lei queste cose non le diceva quando uscivano i libri sulla casa di Arcore di Berlusconi, le dice adesso? Perché le dice adesso? No, io purtroppo ho sotto mano soltanto un libro, se mi fornite gli altri, perché siamo in estate. Va bene, basta. Ci possiamo fare una cultura, diciamo, lei sotto l'ombrellone porta quello, non il libro dei due anni di governo come suggerisce Sestino Giacomoni a Uno Mattina, quello non ce l'ha. No, leggo anche le tragedie di Eschilo, diciamo, c'è qualche consonante. Senti, ma Luca, l'onorevole Briguglio è simpaticissimo, perché non lo invitiamo ogni sera? Se si vuole crocevincere Fini sulla casa di Monte Carlo, parliamo anche della villa di Arcore. Sì, va bene, però l'onorevole Briguglio sa bene che... Non fa una grinza, d'accordo, però adesso c'è in discussione questa roba di Monte Carlo, non si può essere ben altristi. Siccome c'è Monte Carlo, parliamo pure della villa di Arcore di Berlusconi. Scusa, ma cos'è più grave, dico, in linea di dottrina? Aver in linea di dottrina, appunto, una minorenne e storcergli la villa... Può aver ceduto la villa di AN in modo che... Si sta parlando però di Monte Carlo, non della villa di Arcore. Briguglio, lei lo sa bene. Briguglio vuole parlare anche della villa di Arcore. Parliamo anche della villa di Arcore, per carità. Ma Briguglio, cos'è più grave per te? Ma non lo so cos'è più grave, Luca. Non lo so cos'è più grave. Ma non come? Va bene, tu mi vuoi spingere a dire che è più grave perché i metri quadri sono 3.500. Cos'è più grave? Ma non lo so, non c'è una... Non faccio una scala di valori tra cosa è più grave e cosa è meno grave. Non è molto importante fare una scala di valori. È più grave per circuito, a parte che non me la ricordo bene quella storia, adesso diamo per scontato. Ho visto che ha bisogno anche lei di rinfrescare la memoria. Può darsi. Come è noto, in un fattaccio di cronaca nera, in cui ricorre peraltro l'anniversario, perché nell'estate... Oddio, ci stiamo... tu mi stai facendo la storia della villa di Berlusconi, della villa di Arcore di Berlusconi. In sintesi. E siccome lasciano un'orfana, la contessina Casati Stampa, questa orfana viene affidata a un avvocato, il tutore legale, allora... che è un signore che si chiama Cesare Previti. Allora, se qui però basta evocare Previti, allora c'è il marcio. Probabilmente gli avvocati di Berlusconi potrebbero dire l'opposto di quello che stai dicendo tu, non l'opposto sui fatti. No, questo è un dato di fatto. Era tutore e rappresentante legale della famiglia Casati Stampa. Vabbè, per te cos'è più grave? Per te cos'è più grave? Devo dare la linea al giornale radio, cos'è più grave? Per me è più grave la villa di Arcore. Briguglio, per lei cos'è più grave? Lo sa perché è più grave la villa di Arcore? Perché purtroppo ha ospitato un eroe che si chiamava Vittorio Manga. E boom, altra botta. Aia! Briguglio, però siccome l'abbiamo trovata tardi, dobbiamo dare la linea al giornale radio. Tra un quarto d'ora ci risponde al telefonino e Luca, così completiamo il discorso. Giornale radio. Siamo qui 19:15, 800 24 00 24, i titoli del TG3. I Finiani, Berlusconi chiarisca sulla villa di Arcore, l'aggressione a fini golpe istituzionale, se continua governo di garanzia, Bossi si voti. Bersani, in caso di voto strategia unitaria dell'opposizione, Di Pietro governo tecnico per cambiare la legge elettorale, l'UDC no alle ammucchiate. Trovate il corpo di mio figlio, implora la madre dello studente scomparso nel Kashmir, decine di italiani ancora prigionieri del fango. Borse europee in impicchiata dopo l'allarme sulla debole ripresa americana, intanto tariffe alle stelle per acqua, rifiuti, trasporti. La Fiat fa ricorso contro la sentenza che reintegra i tre operai licenziati a Melfi, sulle prospettive del gruppo sindacati ancora divisi. Due gemellini sul passeggino spinto dal nonno, travolti da un'auto in corsa, muore la bambina, in rianimazione il fratellino. Ancora problemi per Morgan dopo il no di Sanremo, ora è Verona a vietare un suo concerto, ma lui risponde: tutti hanno diritto di lavorare. Luca, sono rimasti indietro al TG3, sono rimasti indietro con Morgan. Perché dici la diplomazia e la zanzara al lavoro. La diplomazia è al lavoro e stiamo cercando una soluzione molto difficile, perché Morgan, io pensavo che volesse fare un gesto, però giustamente ha detto: io non mi presto a queste cose demagogiche, andare sul palco a fare il burattino antidroga, non si è vuole prestare, coraggioso. E dunque il sindaco credo che rimarrà sulla linea del Piave. I titoli di Sky TG24 e poi torniamo, se riusciamo a beccare Briguglio, ancora su questa vicenda. Mi avete messo in mezzo su cos'è più grave, la casa di Arcore di Berlusconi o la casa di Monte Carlo? Non c'entra nulla, tu lo sai benissimo, solo che ti diverti a mettermi un po' in difficoltà. Lo capisco, lo capisco. Sky TG24. Bossi insiste al voto subito, i Finiani si dimetta al plurimputato Berlusconi. Di Pietro, Sky TG24, per un governo di transizione in cassa l'ok di Bersani. Palermo, auto travolge un passeggino, morta bimba di 10 mesi, grave il gemello. Anziana mangia in una rosticceria nel Messinese e muore, indagato il proprietario. Camorra, stile narco, 7 ettari di terreni coltivati a marijuana e coca. Un pitone a guardia di 5 kg di cocaina, arrestata gang di spacciatori a Roma. Operai licenziati a Melfi, la Fiat pronta al ricorso contro il reintegro. 2009 da dimenticare sul fronte tariffe con acqua, rifiuti e trasporti alle stelle. Alluvioni in India, si cerca il corpo dell'italiano, migliora intanto la situazione nel paese. Trapattoni operato a Dublino per problemi all'addome, sta bene e presto tornerà a casa. Se è disponibile, non mi ascoltano mai quelle della televisione, una volta che mi ascolta qualcuno, che mi dà spazio. Come non ascoltano mai? Mica si chiamano tutti Fazio. Ma lei è sempre in televisione, scusa. Ma quando mai? Io la vedo sempre. Ma quando mai? Caro Luca, Antonio Di Pietro, oggi tutti i siti stanno interpretando in maniera sbagliata quello che ha detto Di Pietro da Montenero di Bisacci in un'intervista di Sky TG24, perché dicono: Di Pietro disponibile a un governo tecnico. Non è così. Non ha detto questo, ha detto sono disposto ad allearmi anche col diavolo, a fare un governo tecnico anche brevissimo, se questo governo tecnico cambia la legge elettorale, fa la legge sul conflitto di interessi, fa una legge che cambia il mondo dell'informazione. Ipotesi impossibili, impraticabili, per cui tutti quanti titolano Di Pietro disponibile. Non è vero, sentiamolo. Di Pietro: io credo che in questo momento ci sia bisogno che tutti noi facciamo squadra, e sono disponibile, lo dico qua ancora una volta, sono disponibile a far parte di una squadra, non dico anche col diavolo, ma allearmi con tutte le persone possibili e di buona volontà per mandare a casa il modello piduista, un po' fascista e anche dossierista che è quello Berlusconi. Il passaggio però è questo. Io c'ho il pozzo qua vicino, non ho mai visto la luna cadere nel pozzo, lo vedo nell'orizzonte, ma nel pozzo non ci va. Se un giorno va la luna nel pozzo, sono pronto ad ammirarla. Se un giorno è possibile fare un governo tecnico che in 3 mesi si metta a fare la legge elettorale e la pluralità dell'informazione e risolve il conflitto di interessi, io lo firmo e lo sottoscrivo. Se è disponibile, non mi ascoltano mai quelle della televisione, una volta che mi ascolta qualcuno, che mi dà spazio. Come non ascoltano mai? Mica si chiamano tutti Fazio. Ma lei è sempre in televisione, scusa. Ma quando mai? Io la vedo sempre. Ma quando mai? Allora, voglio capire da Luca Telese che effetto gli ha fatto oggi vedere la foto di Giancarlo Tulliani che innaffia la sua Ferrari ultimo modello. Roba da impugnare il Kalashnikov. Cioè, questo Tulliani sembra disegnato da un umorista, da un mago della satira, cioè ce l'ha tutte, è griffato dalle scarpe al perizoma, c'ha la ragazza che sembra uscita da un servizio, come dire, per bambole gonfiabili. Vabbè, beato lui da questo punto di vista. Ho capito, ma c'ha questa Ferrari che, porca miseria, ma statene due settimane a casa, devi andare lì con la pompetta a lavarla. Cioè, diciamo proprio che è un pirla, dai. Perché si è fatto beccare dai paparazzi, dici? Ma c'è proprio quelli di chi? Ma questo è scemo, Fini doveva interdirlo. Doveva barricarlo in casa, chiuderlo con le assi dillo, di legno. Dillo anche al nostro ospite. Se lo becchiamo per telefono, il Briguglio è andato a fare una riunione, chissà con chi. Adesso lo becchiamo, non ti preoccupare Luca. Poi abbiamo Gaucci, se ci risponde, sempre se ci risponde. Ha detto... È la rovina di quest'uomo. Cioè, Fini dovrebbe divorziare da Tulliani e far interdire il fratello, questi due provvedimenti proprio. Cioè, divorziare dalla tua parte che non è nemmeno sposata, come divorziare, cioè lasciare la Tulliani, dovrebbe lasciare la Tulliani. Non lo so, sai che penso che sì, è meno quello che filtra nei retroscena che abbiamo letto in questi giorni, cioè se addirittura fosse vero che questa famiglia lo ha incastrato in questo modo, distruggendogli la carriera, beh, insomma. Ma anche questa foto di chi, che è un settimanale di Mondadori, fa parte del complotto ordito, come diceva Briguglio, da Berlusconi? No, quello è proprio un pirla lui. Ma gira, ma vattene da una parte, vattene ai tropici. No, a Monte Carlo e gira con la sua Ferrari da 200.000 euro, che è quasi una macchina corsa e che fa 350 all'ora. Ma vaffanculo! Cioè, ma te lo immagini quando Fini ha aperto chi, che cosa è successo? No, aperto tutti i siti di informazione, in realtà le pagine dei giornali che avevano lì in bella mostra la foto pubblicata da chi. Certo, tra l'altro con una didascalia un po' perfida, Tulliani con una Polo blu griffata Ralph Lauren, ma in versione extra large, un'edizione speciale disegnata per la nazionale australiana di calcio mondiale del 2010, i jeans di Dolce & Gabbana, come si vede dalla placca in metallo dorato in cornice di pelle che è cucita sulla tasca posteriore del pantalone. Le scarpe invece sono le classiche Hogan con le H in evidenza. No, l'unico complotto possibile è che Tulliani è un agente del berlusconismo infiltrato a casa Fini. E la fidanzata indossa una canotta Miu Miu e le zeppe di Prada. Certo, lì ci si sono messi proprio con lentino di ingrandimento per capire tutte le griff di Tulliani and fidanzata. La Ferrari vale 197.000 euro, io pensavo di più, devo dirti la verità, caro Luca. Vedi? E si compra così, in saldo. E il terzo esemplare venduto. Però su questo, sul tuo incipit non sono d'accordo, cioè sull'effetto mediatico non c'è dubbio. Però ognuno ha diritto di comprarsi la Ferrari, di vestire griffato, per cui... Adesso fai questo giochetto finto che lo difendi. Per no, difendo la sua... No, io invece penso che non sia finita la carriera di Fini, penso che lui risorgerà da questa cosa e fra due anni sarà ricordata come appunto un elemento immaginifico per le barzellette o per gli aneddoti sulla Prima Repubblica, sulla Seconda Repubblica, però questo qui è proprio un pirla. No, ma io sono d'accordo sul fatto che è inopportuno. Ma non ha mai lavorato in vita sua questo. Ma come? Era vicepresidente della Viterbese. Della Viterbese, Elisabetto, capisci? Ma com'è possibile che si sia raccattato questa? Adesso io questo non lo so. Il punto... Elisabetto era detto. Elisabetto ed Elisabetta, perché tutte e due insieme fanno una parola micidiale. Sai, ho questa immagine al congresso di nascita del PDL, anzi al congresso di chiusura di AN, lei era in prima fila e fu scortata diciamo da due squadre per impedire che potesse dire un commento di qualunque tipo sulla relazione di Fini. Pensavano che facesse danni e avevano ragione. Ascoltatori, poi becchiamo Gaucci, 800 24 00 24, perché Briguglio non ci risponde, è impegnato in qualche riunione, vediamo un po', forse è là. Luca, aspetta un attimo, Briguglio? No, forse sì, forse no. Francesco da Rimini, buonasera. Buonasera, dottor Cruciani, sono in linea? Sì, è in linea, dica. Buonasera a lei, tutti i suoi ospiti e i radioascoltatori. Volevo dire che bisogna tenere buoni i cattivi, perché i buoni si tengono buoni da soli. E allora? E poi volevo dire che io ascoltavo al Caffè Concerto a Miramare in Viale Oliveti, Arlecchino, di Gigi e Mario Artieri, ascoltavo grande Silvio Berlusconi quando cantava allora? Nel 56-57, e quindi dico, io lo considero uno fra i grandi uomini italiani. Vabbè, ho capito, Francesco, vado al sodo. Vado al sodo, allora io faccio un appello. Che appello Berlusconi vuole fare? Berlusconi invita Fini a casa sua a cena, fate una bella cena, poi mettetevi d'accordo, poi fate le riforme, perché l'Italia ha bisogno ho delle capito riforme. Francesco, mi sa che è tardi per questo appello. Briguglio, eccolo qua, Luca, ce l'abbiamo. Sì, eccomi qua. Eccoci qua. Allora, Luca, ci sei? Sì. Eccoci qua. Lo sa, Luca Telese prima ha detto, ma com'è possibile? Insomma, cambio la domanda. Briguglio, che effetto le ha fatto vedere sui giornali la foto di Giancarlo Tulliani che innaffia la Ferrari ultimo modello? Nessun effetto, diciamo, perché non mi provoca nessun effetto politico. Nella sua vita privata ognuno può fare quello che vuole. Poi di solito sono abituato a guardare anche alle proprietà della stampa, sia quotidiana e periodica, e anche alla gerenza. E dunque in questo caso un'altra... No, io non l'ho visto il giornale, non ho guardato, guarderò anche così la gerenza per rendermi conto. Cioè la gerenza di chi? Non ricordo bene. No, è di Mondadori, lo ricordo io. Ah, ecco, guardi un po', me l'ha ricordato anche questo. E dunque, secondo lei sono foto... No, e secondo me, cioè, voglio dire, non dobbiamo pensare che il popolo italiano e che i cittadini italiani possano in qualche modo essere valutati col parametro, diciamo, della pubblicità, cioè gli eterni bambini. Chi in politica fa questo errore sottovalutando l'intelligenza la gente poi avrà sempre a mare sulla terra. Però Telese diceva prima, forse Giancarlo Tulliani per qualche tempo doveva un po' restare dentro casa, non farsi vedere tutto griffato mentre innaffiava la Ferrari ultimo modello. Ma questo, come dire, la differenza fra me e Telese è che lui è un giornalista, io invece sono un parlamentare e, come dire, e faccio politica. Le cose che lui può in qualche modo dire, io non le dico per la semplice ragione che è un pirla, ma non può dirlo. No, nel senso che non mi interessa Tulliani, a me interessa la vicenda politica. Però ho capito, è diventato un argomento di discussione politica anche questo. Ma Tulliani ha la Ferrari, la innaffia, o deve stare dentro o deve stare fuori, diciamo, è una questione che mi è del tutto estranea. Telese? Credo che Briguglio, cioè vuol dire, stupendo ci potrebbe dire, penso che sia un pirla e difendo la battaglia politica di Fini, però capisco che non voglia mettersi contro il suo leader, che sia una questione di eleganza. No, assolutamente. Mi ha consentito questa risposta. Io so che Briguglio quelli così quando li incontrava li prendeva a spinte, diciamo la verità. Diciamo su persone che non ho mai visto e che non conosco. Senta Briguglio, ma lei è spiato da qualcuno? No, non lo so questo. Ho contezza che io abbia colleghi che come dire, hanno un ruolo politico nel gruppo, e in particolare il capogruppo di Futuro e Libertà, che lo sono certamente stati. E da chi? Da pezzi dei servizi segreti. E qualcuno deve aver detto questa a questi pezzi. E da qualcuno di questi pezzi dei servizi, qualcuno deve aver detto a questi pezzi dei servizi segreti, no? Non è che agiscono da soli. Io questo non lo so. So che di avere abbastanza elementi per fare questo tipo di affermazione. Ma quali sono gli elementi, Briguglio? Come? Quali sono gli elementi? Quali sono gli elementi? Ma gli elementi sono, diciamo, contenuti intanto in una denuncia all'autorità giudiziaria, a una denuncia espressa e a una audizione segreta dinanzi al Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica, e a un'indagine interna. Non conosco ancora le conclusioni, ma voglio dire, io le mie idee certo non la mia tesi e gli elementi che ho non dipenderanno certamente da questo, e molto responsabilmente dico che questa è una realtà. Ma è spiato per fare cosa? Per ottenere quale tipo di informazioni? Per utilizzarle politicamente contro Bocchino? Io questo non lo so, cioè, perché certo, come dire, non, un uomo politico se viene spiato e per motivi politici. Senta Briguglio, però questo non c'è dubbio, però certo, però voglio capire da Briguglio, lei pensa che dietro ci sia il Presidente del Consiglio? Non posso assolutamente fare questa affermazione. Però non lo può escludere? No, voglio dire, allo Stato non c'è nessun elemento per dire una cosa così grave, voglio dire, voglio immaginare assolutamente che il Presidente del Consiglio possa se immaginassi di vivere in un paese di questo genere, in un Parlamento o comunque in delle istituzioni in cui il capo del governo è alla, se avessi le prove o comunque avessi elementi per questo, per questo tipo di, come dire, di situazione veramente eclatante, non lo direi così tranquillamente. Senta Briguglio, posso farle una domanda? Sì. Luca, ma vai. Con tutto quello che è successo, anche con le sue battute sulla gerenza, sull'uso delle televisioni, dei quotidiani e dei settimanali, si è un po' pentito di non aver dato retta a tutti quelli che negli anni passati, almeno nell'ultimo decennio, dicevano che il conflitto di interessi era il problema vero della democrazia italiana? Sarò molto sincero e parlo veramente a titolo personale. Io sono convinto che la destra italiana abbia sottovalutato la questione del conflitto di interessi. Un tema, diciamo, da approfondire, e comunque io credo che noi dobbiamo fare autocritica molto tranquillamente. Il problema è che o si esamina il conflitto di interessi. Perché non lo consideravate quel problema? Con una certa freddezza, senza che venga utilizzato anche al contrario. Ho capito, perché non l'avete portato all'attenzione? Perché l'avete sottovalutato? Dice, ma perché siamo alle origini, diciamo, del centrodestra italiano, siamo nel 94, lei ricorderà come gli schieramenti politici bipolari si sono formati. Dunque lei si è pentito del fatto che la destra italiana non abbia... Io non mi sono pentito, io credo con molta onestà che bisogna fare una riflessione autocritica, come a sinistra diciamo hanno fatto una riflessione autocritica che più puntavano sull'anti-berlusconismo, meno risultati, diciamo, elettorali ottenevano. Va bene, grazie Briguglio, devo interrompere, c'è la borsa. Luca, ci sentiamo tra un attimo con Gaucci, 800 24 00 24. Questa è la Zanzara, Roberto da Milano, buonasera. Sì, buonasera Cruciani. Niente, un piccolo cappello, sentire l'onorevole Briguglio parlare vi ha voglia di emigrare subito. In che senso? No, in che senso? Sembra la sagra della salamella, voglio dire. Sì, però si spieghi Roberto, se no non capisco. Sentendo parlare Briguglio, vabbè, perché lei pensa che Briguglio dica delle stupidaggini? Allora, i servizi segreti deviati, mancava il grande vecchio, l'uomo della montagna, e poi eravamo a posto. no, perché avevamo completato l'opera. Perfettamente d'accordo con Telese quando ha dato la definizione, lei è un pirla e c'ha perfettamente ragione. Il ragazzo non ha mai fatto una mazza nella sua vita, come fa andare in giro con una Ferrari non si sa, comunque va bene così, ha vinto all'otto, è il fattore C che prevale. Però mi scusi, io a questo tiro al Giancarlo Tulliani solamente perché ha la Ferrari a Monte Carlo ed è vestito problema, griffato non ci sto. La domanda è come mai un ragazzo così giovane si può permettere con la macchina lì? Ho capito, ma questo sarà il fisco a fare le sue indagini. Che significa? 197.000 euro? 197.000 euro per uno che magari ha un reddito. È un monolocale a Milano. Si compra un monolocale a Milano in Carlo Farini. Non è un problema. Roberto, mi scusi un attimo. Se uno ha un reddito di qualche milione di euro l'anno, ed è legittimo avere un reddito di qualche milione di euro l'anno, non è che siamo qui a condannare la ricchezza, meno per fortuna. Allora, se uno ha un reddito di qualche milione di euro l'anno, si può permettere una Ferrari da 197.000 euro. Non perfetto. Mi pare una follia. Sì, certo, sì, indubbiamente è la prevalenza. Poi bisogna vedere come si fanno quei milioni di euro all'anno. Ecco, ho capito, ma si faranno in maniera legittima, credo. Sì, cioè, ma Cruciani si vince al lotto e siamo a ma posto. No, ma non è qual questione è? Del lotto. Il lotto non c'entra problema niente. Problema di fondo adesso, per non stare qui a fare battute sempre, del caso Fini. Il caso Fini non è tanto un problema politico. Il caso Fini è che Fini o ci è o ci fa, nel senso che lui gestiva un patrimonio del partito ed è riuscito a svendere a sua insaputa, perché lo mettiamo assieme a Scajola, a sua insaputa è riuscito a svendere un appartamento, dice a 300.000, dicono 230.000 sì. euro a Monte Carlo, quando a Monte Carlo con quei soldi non ti compri neanche la cabina sulla spiaggia, e non ne sapeva niente, e guarda caso con un giro di società di cui non si saprà mai chi c'è dietro, perché stando all'ordinamento monegasco quei nomi lì non verranno mai fuori se non ci sono dietro reati penali gravi, perché l'ordinamento monegasco è questo, per cui i nomi di chi c'è dietro quelle società non si saprà mai, e guarda caso ci va dentro il cognato. Sì, Roberto, queste sono tutte cose che sappiamo, sono tutte cose che sappiamo, però Roberto, la sua conclusione dalla ricostruzione che ha fatto qual è? Allora, i casi sono due, o è un ciula o ci fa. Basta, questa è la conclusione. Chi? Fini? Esatto. La ringrazio. Ernesto da Roma, buonasera. Buonasera Cruciani. Guardi, io non le faccio i complimenti per la trasmissione perché è un po' di tempo che non mi piace più. Vabbè, perché, Ernesto, allora perché ci ha chiamato? Per dirci questo? Ho chiamato per dire di Fini, ma colgo l'occasione per dirvi che da un po' perché di non tempo... le piace più? Ma per via di questo Telese che c'entra come cavolo... Ancora con Telese? Posso dire perché? Prego, certo, siamo qui ad ascoltarla. No, perché è troppo schierato, è uno che scrive sul Fatto Quotidiano, più che fare informazione fa propaganda, non c'entra niente. No, però mi scusi, è schierato con le sue idee, avrà le sue idee, perché le devi dire schierato? Ha le sue idee, in Italia c'è la fissazione di dire quello è schierato con chi? È tifoso, capisci? Ma non è tifoso, Luca è una persona onesta intellettualmente che la pensa in molti casi diversamente. Da me guardi, va bene lo stesso, siamo qui a discutere, a parlare, anche a confrontarci in maniera aspra. Ma lei come lo chiama uno che invece di fare informazione fa propaganda? Ma non fa propaganda, abbia pazienza, non fa propaganda, non è vero questo. Se facesse propaganda non lo chiamerei, non lo chiamerei, se facesse propaganda non lo chiamerei. Vabbè, mi sono sbagliato io allora, a me sembra... No, ma no, io non voglio dire questo, secondo lei fa propaganda, io non voglio cercare di convincere del contrario, io la penso in maniera diversa, secondo me non fa propaganda ed esprime le sue idee, punto. Ma guardi, per esempio, anche Feltri fa propaganda, anche Belpietro, dipende per quale banda lavorano, se lavorano per la banda Berlusconi o per altre bande. Quando è difficile oggi leggere qualcosa che sia informazione e non sia del tifo da ultravi della curva sud di Roma. Questo è quello che dicevo io. Va bene, ok, d'accordo. Mi dispiace, ma oggi quando leggere i giornali veramente ci da mettersi le mani nei capelli. Comunque io volevo dire di Fini, se mi consente. Sì, prego, no? prego. Ernesto. Volevo dire che con quegli 8 punti si è dato da solo la patente di imbecille, perché uno che vive con una donna da qualche anno ci ha fatto pure un figlio, dopo che questa è stata con Gucci, quindi è una donna di pensiero veloce, diciamo così, deve venire a sapere che il cognato si è intestato l'appartamento dalla donna dopo che è successo tutto il bell'anno mediatico, è uscito su tutti i giornali. Praticamente si è dato dello stupido da solo. Perché? A volerci credere. Ma uno che dice che ha saputo dalla sua compagna che il fratello si è intestato l'appartamento dopo che è successo tutto sto macello, poteva saperlo prima e fare qualcosa, no? Anziché arrivare a saperlo alla fine dei giochi quando è stato sputtanato su tutti i giornali. Questo mi sembra veramente volersi dare la patente di imbecille. Quegli 8 punti, a volerci credere, io non ci credo, ma comunque, se uno ci vuole credere... Cioè sono un autogol, secondo lei, un boomerang? Molto grande, molto grande. Questo, se si andrà alle elezioni, sparisce dalla faccia della terra. Vedremo. Non lo voteranno neanche fra i familiari. Va bene, grazie Ernesto. Pierluigi, provincia di Taranto, buonasera. Buonasera Cruciani. Dica. Ascolti, io sto ascoltando la trasmissione da circa un'ora e mi pongo questa domanda. Ma lei è forte, voglio dire, perché ha risposto ad un ascoltatore dicendo non può impostare il suo discorso in difesa di Fini con il senti chi parla, quando poi io non ho detto pensi, non ho detto che non lo può fare, ho detto che secondo me ricostruendo l'intervento dell'ascoltatore, ho detto secondo lei è senti chi parla, cioè dire i Berlusconi, se le persone vicine a Berlusconi non possono, secondo l'ascoltatore, fare critiche diciamo di leggerezza a Berlusconi perché hanno una serie di scheletri negli armadi. Questo ho ricostruito l'intervento dell'ascoltatore, Sì, ascolta Cruciani, però alla base di questo ragionamento è Feltri che sta accusando Fini in questo modo, cioè senti chi parla, lui che ha venduto la casa a Monte Carlo, eccetera, è a monte il problema, se vogliamo ragionare in questo sì, modo. Sì, l'attacco a Fini è sul, anche l'attacco a Fini è sul senti chi parla, siccome sì. Fini parla di moralismo, di legalità, eccetera, eccetera, allora... Cruciani, ascolti un attimo. Allora, dopo questa cosa... Sì, ricostruiamo brevemente una vicenda. Lei lo sa che la Mondadori ha vinto in primo e secondo grado due case con il fisco ed sì. Era arrivato in Cassazione per la terza... Ho letto oggi sulla prima pagina di Repubblica, sì. Sì, sì, sì. E quindi lo sai che anche il 25 marzo del 2010 è stato fatto un decreto in cui viene... Lo so benissimo, ho letto, sì. Forse qualche radioascoltatore, che so, Roberto da Milano o qualcun altro, se l'è dimenticato. No, nessuno si dimentica delle cose, gli ascoltatori leggono i giornali, sono informati. Ma forse fanno finta di dimenticarlo allora. No, non dimenticano nulla, sono informati. Va bene, comunque sono il primo che lo dice, voglio dire, se non l'avessi detto io può darsi. Va benissimo, un decreto, se lei vuole parlare del decreto salva Mondadori. Sì, infatti, volevo dire questo, cioè è stato fatto un decreto dal governo Berlusconi a marzo 2010 in cui si dice brevemente che chi ha avuto due cause vinte in una lite col fisco, ed è il caso della Mondadori, sì. Ed è arrivato al terzo grado di pare non solo della Mondadori, pare non solo vabbè, della Mondadori. Diciamo che guarda caso c'è la Mondadori che doveva, gli è stato contestato un mancato versamento di 173 milioni di euro alle casse del fisco e quindi con questo decreto anche la Mondadori sana questa situazione con il solo 5% pagando 8 milioni e 600 mila euro. Allora, la domanda che faccio a lei, Cruciani, ma potrebbe essere fatta a Feltri, a Belpietro, a Roberto da Milano e a chiunque, cioè in questo caso lei è una variabile dipendente, potrebbe essere chiunque. È più grave sono una variabile? Una variabile? Una variabile indipendente, cioè potrebbe essere un qualsiasi persona in questo momento. Va bene, allora? Allora, la domanda che faccio a lei, Cruciani, ma ripeto, potrebbe essere chiunque. Ho capito. È più grave la vicenda di Monte Carlo o la vicenda della Mondadori? Non lo so cos'è più grave per Luigi, non è una domanda, non è una domanda che ha una domanda senza senso, cos'è più grave o cosa non è meno grave, non è questo il punto. E allora i due magistrati della guardi della la vicenda di quel decreto è una vicenda complessa, se uno proprio vuole andare io probabilmente ci saranno state delle pressioni per far passare questo emendamento, decreto, quello che è, eccetera. Non lo so, è probabile che sia così. Pierluigi, il punto è un altro. C'era stata una vittoria nei primi due gradi di giudizio? Per evitare la Cassazione, un giudizio diverso dalla Cassazione, è stata varata questa norma, giusto, Pierluigi? Sì, guarda caso, lei osserva, guarda caso. I primi due gradi di giudizio sono andati in un certo modo, no? Certo. Dunque, e poi è stata cucita questa legge in cui ho capito, nei primi due gradi di giudizio che cosa è successo nei primi due gradi di giudizio? Chi ha vinto? Chi ha vinto? Benissimo. Ha avuto ragione la Mondadori. Però lei mi insegna che c'è il terzo grado di giudizio, deve valere sempre certo, questo discorso. Certo, deve valere sempre. Allora, certo. Qualcuno ha fatto ricorso e questa vertenza con l'Agenzia delle Entrate è arrivata in Cassazione. Tra l'altro, a margine di questa vicenda, e la magistratura sta indagando, c'è il discorso delle pressioni fatte dalla P3, da esponente della nuova P3, per fare in modo che la vicenda passasse da una sezione della Cassazione, la sezione tributaria, all'altra, perché ritenuta più malleabile. Ci sono anche un paio di magistrati che sono stati intercettati. Queste sono ipotesi, Pierluigi. Ipotesi fatte dai carabinieri. Queste non sono dalla ipotesi, dire, sì, ma sono ipotesi. Sono ipotesi. Ma voglio dire, li fa anche. Non li fa una persona. Ma sono ipotesi, Pierluigi. Sono ipotesi, vabbè. Lei mi sta parlando. La sono P3. Lei ha da per certo che ci sono state pressioni per portare questa cosa in un altro ramo della Cassazione. Lei lo dà per scontato già. No, no, non sto dicendo questo, Cruciani, io sto dicendo, sto leggendo l'articolo che anche lei ecco, sta leggendo l'articolo, certo. Ci sono delle intercettazioni in cui alcuni personaggi, alcuni magistrati, tra cui uno che doveva andare in pensione, ma gli hanno promesso che sarebbe rimasto due altri anni, infatti hanno prolungato il discorso di posticipare la pensione di questo magistrato o di chi era nelle stesse condizioni, da 75 a 78 anni. Cioè, vuol dire, c'è tutta la situazione appunto che sta evolvendo. Sì. Comunque le intercettazioni e le parole dette al telefono le ho dette né io e né lei. Vuol dire, qualcuno le avrà dette. Ho capito, Pierluigi, trattasi sempre di intercettazioni. Come lei dice, i carabinieri stanno indagando, c'è un'inchiesta in corso sulla presunta P3, su quest'altro filone che riguarda le pressioni per spostare un processo fiscale, un processo che riguarda il fisco da una sezione a un'altra della Cassazione. Vedremo. Poi quello che lei ha detto è un fatto, c'è stato questo decreto che è stato soprannominato Salva Mondadori. La ringrazio, Pierluigi. Marco da Roma, buonasera. Sì, buonasera. Dica. Io premetto che sono schierato, come diceva prima un altro ascoltatore, sono di area PD e PDL, ma mi stupisco di quello che sta succedendo, perché se anche fosse vero che il signor Giancarlo Tulliani avesse approfittato della situazione entrando in possesso, anzi prendendo il contratto di locazione di quell'appartamento che è di proprietà di AN, in quanto lasciato dalla famosa contessa eccetera eccetera, ma lo scandalo, mi chiedo e chiedo anche voi, dov'è? Io non riesco a capire, in tutto questo rumore che si è fatto, dov'è lo scandalo che farà cadere un governo della Repubblica Italiana? Dov'è lo scandalo? In un paese che ha fatto la legge salva Previti, e glielo dico da ex berlusconiano, da area PDL, in un paese che ha fatto il lodo Alfano, e adesso abbiamo parlato anche del Salva Mondadori, ma lo scandalo dov'è? L'appartamento di proprietà di AN che viene venduto, adesso scopriremo anche a chi. Il signor Tulliani ovviamente riesce ad avere la notizia prima di altri e diventa l'affittuario pagando. Marco, secondo lei non c'è scandalo? Ma dopo tutto quello che abbiamo visto, io sinceramente... Non ci perdere i paragoni, ma perché mi fa sempre il paragone? Cosa c'entra il paragone? Si sta parlando da giorni sui giornali. Scusi un attimo, Marco, perché lasciamo perdere Libero, il giornale, eccetera, eccetera. Parliamo del Corriere della Sera. Perché il Corriere della Sera non parla di quello che... di cui Briguglio vorrebbe che si parlasse, cioè della casa di Arcore, delle case di Berlusconi, eccetera, eccetera. Già parlato abbondantemente. Ecco, appunto, si sta parlando oggi di una vicenda che riguarda il presidente della Camera, che ha posto un problema che riguarda la legalità, la trasparenza, l'uomo pubblico che deve essere di un certo tipo, eccetera. Non è che sono io che ho posto queste questioni. D'accordo, non è che Berlusconi ha posto queste questioni. Le ha posto Gianfranco Fini. Certo. Dopodiché. Perché l'ha ordinato Berlusconi, perché ci sono alcuni cronisti che sono andati a fondo, perché gli hanno passato le carte, non lo so, è venuta fuori questa vicenda della casa di Monte Carlo. Lei ed è della casa grande. Ma non è che lo scandalo, è uno scandalo così no, se io l'ho già detto ieri, secondo me la posizione di Fini come presidente della Camera è incompatibile come presidente della Camera per altri motivi che sono politici, non per la vicenda di Monte Carlo. E su questo siamo d'accordo. Dopodiché, Marco, non si può non considerare il fatto che una casa era appartenente al patrimonio di Alleanza Nazionale, è stata venduta sicuramente a un prezzo inferiore a quello di mercato, su questo non ci sono dubbi. Sono problemi di Alleanza Nazionale. Sì, sono problemi di Alleanza Nazionale. Sono problemi di Alleanza Nazionale fino a un certo punto, perché naturalmente poi subentra un'altra questione, una questione che riguarda Fini e i familiari vicini a Gianfranco Fini, che è il presidente della Camera. Cioè dire, il signor Tulliani si è interessato come mediatore, lo dice lo stesso Fini, a questa casa, e poi chissà perché magicamente diventa anche locatario. Ma i conti interni col partito, Gianfranco Fini. Sì, ma non è solamente una questione... La tua incompatibilità con la carica di presidente della Camera dipende da altri motivi, e come ha giustamente ricordato, ma lo scandalo in se stesso... Dov'è? Ma non riguarda il denaro pubblico, certo che non riguarda il denaro pubblico, esattamente, anche se indirettamente, come lei sa bene, i soldi dati ai partiti potrebbero rientrare nella vaga definizione di denaro pubblico, no? Qualcuno ne ha anche parlato di questa cosa, ma lasciamo perdere, riguarda il lascito a un partito. Ora, ripeto, che sia uno scandalo che riguarda il politico Gianfranco Fini, non me lo sono inventato io, ne stanno parlando tutti i giornali, anche la stessa Repubblica oggi, in un articolo di fondo di Ezio Mauro, chiede a Fini di chiarire, altrimenti se fosse una cosa che riguarda, come dice lei, Fini e Alleanza Nazionale, gli eredi di Alleanza Nazionale, non si chiederebbero a Fini altri chiarimenti sul perché Tulliani si è interessato di questo appartamento come mediatore e perché poi magicamente si è diventato anche il locatario qualche tempo dopo. Questo è il punto, Marco. Non lo chiedo solo io, lo chiede Ezio Mauro. Far cadere il governo italiano. Ma lasci perdere il governo italiano, se cade, cade per motivi politici, non cade per Monte Carlo, cade perché c'è una parte della maggioranza che si stacca, non è più d'accordo con il Presidente del Consiglio e si va alle elezioni. Questo e mi si sembra... stacca anche per questi motivi, però. Ma perché no, il Presidente no, del no, Consiglio no. È allergico alle critiche e sguinzaglia i suoi killer. L'anno scorso Boffo, sempre Feltri, ancora Feltri, nel frattempo c'è stata la discussione sulle intercettazioni, è passato un anno, noi non abbiamo fatto nulla di quello che dovevamo fare. Questa è la sua valutazione, Marco, questa è la sua valutazione della situazione politica, cioè dire Berlusconi non lascia libertà di parola all'interno del PDL, scatena i killer. Quali sarebbero i killer? I killer in questo caso Vittorio Feltri. Feltri fa il killer di Berlusconi. Chiunque intacchi o tenti di intaccare la moralità di Berlusconi, ovviamente i politici hanno scritto nell'armadio tutti quanti, è facile andare a... Allora le faccio ascoltare Antonio Di Pietro, che chiaramente parla pro domo sua in questo caso, quando dice se Fini non fa chiarezza è fini. Non è che lo dice Vittorio Feltri, lo dice Antonio Di Pietro. E lui fa il suo lavoro. Ok, fa il suo lavoro. Intanto è Antonio Di Pietro che lo chiede, no? Non è che lo chiede Vittorio Feltri. Dunque le cose sollevate. Di Pietro ha tutto l'interesse ad andare a voto adesso, al contrario di Bersani. Sono d'accordo con lei, infatti. Prenderebbe voti. E infatti ho detto, lo dice pro domo sua, su questo non c'è dubbio, e l'ho detto prima. Dopodiché poi, evidentemente, le cose tirate fuori da Vittorio Feltri e dal giornale in questi giorni hanno un fondo di, no, di concretezza, comunque si chiedono spiegazioni, oppure no? Di Pietro. Lui stesso adesso, lui ha detto che non ne sapeva nulla. Non poteva ma non sapere? Detto proprio in dipietrese. Sta a casa sua, ce l'ha a fianco lì il cognato. Prendilo davanti, guardalo in faccia e gli dice: ah, cognato, ma chi è questo che ha comprato sta casa e da chi l'hai affittato? Perché puoi prendere in giro me, ma non è che possiamo prendere in giro tutti e due gli italiani. Se non fa questo fine, non lo fa presto e bene e finito pure lui. Marco, dica. Sono d'accordo con Di Pietro, sicuramente. Però dico una cosa, se anche Fini disponesse delle armi mediatiche che può avere Berlusconi e andasse a scavare non solo negli aspetti che tutti conosciamo della vita politica di Berlusconi, recenti e passati, andrebbe a finire col ventilatore acceso che tutti ben conosciamo. Allora... Guardi Marco, la vita di Berlusconi è stata scavata, come lei sa, in maniera molto approfondita. Sono scritti libri, migliaia di pagine sulla casa di Arcore, sui mafiosi, su... c'è qualsiasi cosa. Non mi dica che non è così, perché altrimenti, insomma, lei è una persona intelligente, sicuramente si rende conto che è così. La vita di Berlusconi, le proprietà di Berlusconi, eccetera, eccetera, se ne parla da 15 anni. Mi sembra il classico caso, però, di chi ha la trave nell'occhio e indica la pagliuzza nell'occhio dell'altro. Ecco. Ho capito, però rivolga queste critiche anche a Repubblica, al Corriere della Sera, a Repubblica da oggi, al Corriere della Sera. Ma i giornali fanno benissimo a chiedere a Fini dare spiegazioni, anche io voglio le spiegazioni da Fini, ma tutto questo non mi sembra un motivo valido per un massacro mediatico di questo tipo rispetto a tanti fatti che sono accaduti in Italia e che meritavano ben altra attenzione. Può darsi che ci sia una... Vede, però in questo caso secondo me... L'ho ripetuto, lo ripeto e lo dico da qualche giorno, c'è un elemento fondamentale. Se uno si erge a puro, se uno si fa paladino della legalità, della trasparenza, allora non deve avere nemmeno una piccola macchiolina, perché sono anch'io convinto che si tratta di una piccola macchiolina, come dice lei. Però quando uno fa il puro, poi anche le piccole macchioline si allargano. Questo non significa impedire a chiunque di fare la minima critica a qualcun altro. Ma le critiche, Marco, ci sono sempre state, che poi non c'è dubbio il PDL era in mano a poche persone che decidevano tutto, che è un partito carismatico in cui probabilmente Fini aveva anche poca voce in capo, non c'è dubbio su questo, non c'è il minimo dubbio, ma non è che Fini queste cose insomma, non le sapesse anche prima, lo sappiamo bene, o no? Purtroppo sì. Purtroppo sì. In chiusura, se mi permette una parola su Morgan, in realtà volevo chiamare su questo, poi ho sentito un briguglio, mi sono allarmato anche io. Prego. Sinceramente. Quello che sta facendo il sindaco Tosi è assolutamente trasparente e legittimo, perché bisogna ricordarci sempre che in Italia c'è una legge che vieta lo spaccio di droga, vieta il traffico di droga, e fino a quando c'è questa legge non ci si droga. Il messaggio che deve passare, chiaro, per i giovani, è che chi si droga va incontro, non chiamiamoli tossicovendoli, sono drogati, va incontro a grossi problemi, tra i quali anche quello che dare Verona. Tu non ci canti, perché il messaggio che dai ai giovani altrimenti è che tutto sommato, anche se ti sei drogato, anche se hai fatto esperimenti con le droghe per tutta la tua vita, poi in fondo, alla fine, puoi redimerti e puoi essere anche un personaggio di successo, un po' quello, il modello negativo che era anche la Baldari. Perché non ti puoi redimere, non ho capito Marco. Sì, ti puoi redimere. Cioè non devi più cantare in un'arena pubblica perché hai fatto una dichiarazione... Non adesso, se no, allora quando? Ma se quando uno ha bisogno di soldi, vai sul palco e dici ragazzi, fate come me, io ero un drogato, adesso ne sono uscito, si fa così, poi cominci a cantare dopo. Ma Marco, questo mi sembra francamente una caccia alle streghe, adesso devo dire la verità, insomma non mi sembra eccessivo, cioè mo prima, dopo, eccetera, uno continua a fare il suo mestiere. Morgan sta facendo un percorso di recupero, come ci ha detto, anche complicato, che va avanti, viene seguito da alcuni medici, il suo lavoro è questo, ma insomma lei pretende che una persona non lavori e dunque cada magari in un'ulteriore depressione? Nessuno vuole che Morgan non lavori, può lavorare ovunque, ma se, scusi, ma se il ministro Meloni, non lo farei cantare. Se il ministro Meloni, che è un ministro della destra contraria a qualsiasi tipo di droga, l'ha invitato alla sua radio qualche giorno dopo quella intervista a Max, non mi ricordo se prima o dopo l'intervista Porta a Porta, allora non doveva essere invitato nemmeno a una radio di un ministro, addirittura in quanto drogato o in quanto propagatore di messaggi antieducativi o diseducativi. Insomma, Marco, dipende questo... dal messaggio che dà. Io rispetto a tante persone che possono essere invitate, non l'avrei invitato. Cioè, in naftalina per quanto tempo? Finché quando non si è redento, e poi per dare messaggi positivi comunque dopo. Bah. Messaggi positivi ed educativi. Ho capito, ma non sta a lui dare messaggi positivi o educativi. Come no? No, non sta a lui, abbia pazienza. Non sta lui, in quanto personaggio pubblico e di interesse presso i giovani, ha dato un messaggio altamente negativo, quindi adesso deve contribuire a dare un messaggio positivo, secondo me. Beh, uno può contribuire dicendo, come ha detto già, senza ripeterlo 100 volte o senza ripetere ogni volta che canta, che la droga fa male, e può dare un messaggio positivo continuando a fare il suo mestiere, dicendo che sta facendo un percorso di recupero. Insomma, credo che si chieda un po' troppo a Morgan. Grazie comunque Marco, grazie dell'intervento. Abbiamo i telegiornali tra un attimo. 800 24 00 24. Eccoci qui, 20 in punto, 800 24 00 24, alla 7. Bossi stoppa Di Pietro, favorevole ad un governo tecnico. Bisogna andare presto alle elezioni, dice il leader leghista. Il segretario del PD Bersani chiama le opposizioni ad un'alleanza sul programma in caso di voto. Sempre più scintille tra PDL e Finiani. Bondi definisce in stato confusionale Bocchino, che chiede le dimissioni di Berlusconi. Il premier chiarisca sull'acquisto di Arcole, rilanciano i Finiani. Carambola mortale a Palermo, 2 auto si urtano ed una fuori controllo travolge sulle strisce pedonali una carrozzina con 2 gemelli di 10 mesi. Morta la bambina, il fratellino è grave. Bene, 22 minuti, 800 24 00 24. Antonio, provincia di Vicenza, buonasera. Non c'è più Enzo, provincia di Torino. Enzo? Michele da Catanzaro. Buonasera anche a Luca Telese. Dica. Volevo fare una considerazione. Dove siamo precipitati, come siamo precipitati in una repubblica delle banane? Non abbiamo più certezze, non abbiamo più diritto, ma chi si alza per primo comanda, chi si alza per primo la dice. Che significa chi si alza per primo? Non capisco nulla. Il primo che dice una cosa. Comanda, che vuol dire? Primo nel senso a livello nazionale, no? Può essere creduto, può essere credibile. Mi interessa il caso specifico della casa di Fini. Io peraltro non sono un elettore di Fini né del PDL. Ma faccio una considerazione. Se l'argomento che ha tirato fuori Feltri per quanto riguarda raccogliamo le firme contro la terza carica istituzionale, passa questo messaggio, si raccolgono le firme affinché si dimetta una persona che è la terza carica istituzionale della Repubblica Italiana, perché c'è questa vicenda di questa casa. Mi domando, e le domando Giuseppe, e domando anche a Luca se c'è ancora, perché ho dovuto spegnere la radio, quindi non so se è andato via. Mi domando, ma basterebbe, innanzitutto non c'è una norma giuridica che io sappia, ma se c'è qualcuno me la dica, per cui basta raccogliere delle firme affinché una persona si dimetta. Non mi risulta che il presidente Fini sia indagato, ovvero abbia ricevuto un avviso di garanzia. Se questo non serve, avere un avviso di garanzia o essere indagato, noi raccogliamo le firme contro delle persone che sono indagate o hanno ricevuto avvisi di garanzia, vorrei fare un nome, ma insomma è sotto gli occhi di tutti quello che si è verificato con la vicenda del sottosegretario alla giustizia. Mi sembra che abbia qualche problema dal punto di vista giuridico. Allora, se io raccolgo le firme... Scusi un attimo, Michele, scusi un attimo. Scusi un attimo. Questa volta a Villa Certosa, tre ragazze che stavano camminando su un tratto di spiaggia, normalissime, vestite normalissime, neanche in bikini. Chiesto di un pensiero, ha detto... Ah, ma che malinconia vedere queste povere ragazze. Ma quali povere ragazze? Erano tre ragazze normalissime. All'ombra di Villa Certosa pensava sempre ad una cosa, ma era triste e scuro in viso e non faceva alcun sorriso. Venne da Bari un imprenditore con delle sventole da paura. Lui le guardò, chiamò il dottore, prepari subito una puntura. E na na na na na na na. Ti faccio fare la velina, ti faccio fare la deputata, ti faccio fare la fiction Rai, ma solamente se... Ma siete tutti perspicaci! Bertolaso non si tocca. Dimmi, figliolo, ti tocchi? No, per quello ho la massaggiatrice. Voglio dire, ci pare che ti tocca del tempo. Oltretutto, se la prendono con lui, non perché lui... No, proprio, l'ha detto Berlusconi, per colpire me colpiscono Bertolaso. Peccato che quando mi hanno lanciato il Duomo di Milano, tu non c'eri. Qualcuno mi ha pure criticato perché ho detto che mi sento un alluvionato. Ma cos'altro sono? È un fango ovviamente peggiore di quello che colpisce i nostri alluvionati. Bene, Michele, allora, la raccolta di firme, la raccolta di firme. Guardi, caro Michele, la raccolta di firme, fa parte delle iniziative editoriali di un quotidiano, in questo caso i due quotidiani. Dov'è il punto? Qual è la critica? Cioè, non capisco. È ovvio che ognuno può dire quello che vuole, fare quello che vuole, però allora. È chiaro che Michele, cioè io, non avrò mai lo stesso audience che può avere. E allora siamo alla tautologia, dunque. No, passa un messaggio, cioè raccogliamo le firme per mandare a casa una persona. Benissimo, mi scusi, ma secondo lei se io raccolgo le firme contro Tizio, Caio Sempronio, può essere una cosa valida dal punto di vista giuridico? Ma non c'entra niente dal punto di vista giuridico, Michele. È un'operazione... È semplicemente un'operazione. Giornalistico, allora politica, un'operazione... la chiami come la vuole. Allora non ci vuole Einstein per capirlo. Allora, se per esempio un altro giornale, dico il Fatto Quotidiano, tanto per dire, avesse fatto la stessa proposta, raccogliamo le firme contro Caliendo, ma secondo lei era una cosa che poteva andare dal punto di vista... Ma non lo so, ma non l'hanno fatto perché non fanno raccolta di firme, che ne so. Ma insomma, non ho capito di che stiamo parlando, Michele. Cioè, stiamo parlando di come noi siamo adesso in una condizione a livello nazionale per cui il popolo italiano è tranquillamente bombardato, dico così per dire, no? Sì. È bombardato da un messaggio che mi dice raccogliamo le firme per mandare a casa una persona che sta scomoda a qualcuno, sicuramente. Va bene, Michele, grazie. 28 minuti, pubblicità, torniamo subito. 20:09, 800-24-00-24. Sandro da Bologna, buonasera. Sì, buonasera. Buonasera, dica. Buonasera, Corsani. Gli argomenti di questa sera sono belli, tanti, importanti. Io lo volevo riportare su Morgan, però, e la droga. Ecco, io sono favorevole proprio al sindaco Tosi di Verona di non farlo, di non fargli fare questo suo show. Però perché, mi scusi, secondo questo principio, Sandro, non si dovrebbe esibire in nessuna città. Va bene, ma voglio dire, andiamo a San Patrignano, ci sono tanti drogati che sono là per disintossicarsi, ci sono tanti artisti, fanno altre cose. Noi stiamo facendo... Un attimo solo, Sandro, un attimo solo. Santo Domingo, Luciano Gaucci, ci aveva detto... Ci sono le 19:30 ora italiana. Benvenuto al correo de voz, Viva. Después del tono, su llamada será facturada. Caro Gaucci, la stiamo aspettando dalle 19:30. Lei non si fa sentire. Va bene, Sandro. Vabbè, su Monte Carlo magari ci arriviamo anche dopo, però quello che voglio dire, lui sta facendo una riabilitazione, lui è un corso di recupero, ma che lo faccia. E io poi ho capito, ma vuole anche continuare a fare il suo mestiere. Per carità, non è che il caso Verona sembra isolato, però se si innesca un meccanismo come questo, cioè Morgan deve andare là a fare il... Guardi, io le dirò di più, guardi, io faccio Castelli di Sabbia e le dirò di più, sono contrario assolutamente alla droga perché c'è una legge, allora... ma c'è una legge anche che proibisce di fumare nei locali pubblici e io proibirei di fumare nelle spiagge. Perché lei si immagina con la paletta quando sono no, ma anche, sono d'accordo anch'io, sono d'accordo anch'io, Sandro, però adesso non quante portiamo il discorso. Io devo togliere, mi fanno schifo. Ma anche a me fanno schifo le cicche sulla spiaggia, però adesso non andiamo su a far paragoni tra la droga e le cicche sulla spiaggia. No, per l'amor di Dio. Ho capito. Non capisco perché secondo lei Morgan non si può esibire in nessuna piazza italiana. Vorrei capire questo punto. Ma perché con tanti problemi che ci sono, con tanti disoccupati, con tanti laureati, artisti che non hanno un lavoro, dobbiamo parlare di Morgan. Ma che c'entra parlare di Morgan? È una polemica. In realtà Morgan stava facendo il suo mestiere, il sindaco Tosi ha detto non puoi cantare a Verona. Molto ma semplice. Io non lo farei cantare da nessuna parte. Ho capito, d'Italia. Ma questo l'ho capito, io invece la penso diversamente. Antonio, provincia di Vicenza, buonasera. Sì, buonasera Antonio. Dica. Ecco, io sono un peggio di quello che ha parlato adesso. Perché non è che io voglia castigare Morgan, anzi potrebbe essere anche mio figlio. Mi dice, e allora? Però lui, io mio figlio fa il DJ, sta sì. partendo adesso, sì. farebbe qualsiasi cosa per riuscire. Se lui capisce che uno si aiuta un po', io addirittura gli dico, stai attento per non dirgli di più, non bere tanti caffè, sai, da notte, tienti su, tienti svegli in altro modo. Immaginarsi. Immaginarsi cosa? Immaginate se lui a lui viene in mente che prendendo qualcosa può aiutarsi e riuscire meglio. Questo non lo so, Antonio, questo lo sa suo figlio come si fa a tenere su tutta la notte, non lo so e non lo voglio sapere, però non credo che l'esempio di Morgan sia di stimolo a suo figlio per prendere la cocaina se la prende. Mi metto in strada come fa Morgan? Non ho capito, scusi. E lui pensa che, io insomma, se io... lui pensa chi? Lui pensa chi, mi scusi? Mio figlio. Cosa pensa? O altri DJ, altri ragazzi pensano magari che aiutandosi un po' si parte con questa attività DJ, cantante o altri spettacoli. Ho capito, allora? Poi, allora? Poi un domani mi rimetto in strada, chiederò perdono e intanto sono partito. Non ho capito, suo figlio le ha detto... cosa no, le ha detto su Morgan, suo questo figlio? È il messaggio che passa. Il messaggio di chi, mi scusi? È che drogandosi si fa successo più facile. Bah, non credo che questo sia il messaggio che... Io sì, ci credo molto. Anzi. Cioè, lei crede che Morgan faccia passare questo no, tipo di messaggio? No, tutti quelli no, Morgan, anzi, mi dispiace. Non è che io parli per castigare Morgan, parlo per il messaggio che gira. No, ho capito, però adesso, siccome stiamo parlando di Morgan, secondo lei Morgan fa passare questo tipo di messaggio? Antonio, io sono convinto che il messaggio sia già passato, non per già Morgan, passato, sì, già passato. Ma non per Morgan. No, è vero. Quando voi facevate la missione, i Magnifici 7 o altri, che si parlava di quei cantanti famosi che hanno fatto successo, si drogavano, sì, sì. Io ci stavo male. Io non ho mai detto al mio ragazzo ascolta Radio 24, lo dico sinceramente, perché quelli si fa l'idea, penso io, ma non è che io... Cioè lei pensa che siccome la nostra trasmissione Magnifici ogni tanto parlava di personaggi del mondo dello spettacolo, della musica, che facevano uso di droghe, adesso io poi non so i dettagli... Sì, non abbiamo neanche in cerca. Noi abbiamo fatto un'apologia del consumo di droga. Sì, per me sì. Va bene, Antonio, io incasso la critica e la ringrazio. Sì, no. No, ma il registro, io non sono d'accordo, però insomma. Non sono d'accordo, e anzi è giusto che lo sia. No, non è giusto. Io invece sono un po' convintissimo. D'accordo, Antonio, grazie. Traffico. Siamo qui, ultima parte della Zanzara. Questa sera molti ascoltatori, 20:16, 800 24 00 24. Matteo da Roma, buonasera. Salve, buonasera. Dica. Io ho sentito prima l'intervento di Briguglio, molto interessante, e mi sono piaciute anche molto le domande che gli avete fatto, insomma. E la domanda che mi è piaciuta di più mi pare che era quella di Telese, che gli ha chiesto ma perché stupirsi tutto un tratto del fatto che da parte di Fini che insomma che Berlusconi era la persona che era e quindi fare lo strappo, provocare lo strappo e per me questo appunto pare assurdo, anche quando c'è stata la famosa convention, no? Che hanno fatto l'Assemblea Nazionale. Sì, questa gliel'ho fatta io la domanda, comunque non importa. Allora In quel caso perché Fini tirò fuori appunto tutta quell'aggressività nei confronti di Berlusconi, no? A me parve, insomma, da anni che si parla dello scandalo di Berlusconi, appunto di tutti gli scandali anche politici, no? Mi sembrava completamente... Vabbè, Matteo, insomma, cosa vuole dire? Non ho ancora capito. A me, non lo so, appunto la mia era più che altro una domanda, una curiosità, vorrei capire... A parte appunto la casa di Monte Carlo, quello non ci interessa, quelli sono scandali giornalistici, operazioni mediatiche che nascono e finiscono lì per lì, no? Però dal punto di vista politico qual è il tema che i finiani hanno una maggiore collegialità nelle discussioni all'interno del PDL, sì. I temi dell'economia, i temi del mezzogiorno, i temi di non so che, della legalità. Però non vengono quasi mai fuori. Ma sì, perché Matteo, secondo me non esistono questi temi politici, diciamo, non esistono temi politici forti. Esatto, soltanto però, insomma, cose mediatiche. Questa è la mia idea. La ringrazio, Alberto, allora. Provincia di Viterbo, buonasera. Sì, pronto? Buonasera, dica. Buonasera a lei. Sempre sul tema di... Sul tema di? Il tema della casa. Sì. Non sono affatto d'accordo con quello che ho sentito anche da lei stesso l'altro ieri, da Trisi, che tutto sommato è un problema interno del partito. Ma io non ho detto questo. Ma diciamo che lei ha detto che maggiormente è un problema etico e politico. No, io non ho detto nemmeno che è un problema etico, ho detto che è un problema politico perché tutti i problemi che riguardano il privato... in questo caso i rapporti privati di una persona che ha una carica importante come Gianfranco Fini, che hanno comunque riflessi pubblici perché si tratta del patrimonio di un partito, del modo in cui si gestiscono gli immobili, eccetera, eccetera, hanno un immediato riflesso politico. Comunque io invece trovo che ha una grande importanza anche a livello, eventualmente, non so se ci sono responsabilità di qualunque genere, perché che significa che se sono soldi di un partito non hanno una valenza come quelli pubblici. Allora che significa che un amministratore di un condominio non ha problemi se vende un bene di un condominio a un decimo del prezzo, se sono tutti d'accordo va tutto bene? No, non è vero, perché il partito, come ha detto anche lei prima, diciamo, non è proprio esattamente una cosa privata, è comunque un qualcosa in cui credono tante persone, in cui credeva soprattutto la contessa che aveva donato quella cosa, che a questo punto penso che sia morta due volte. Sì, però Alberto, insomma, con questo Fini farà i conti con l'elettorato ex di Alleanza Nazionale, col suo attuale elettorato, eccetera, eccetera. Mi chiedo, a un certo punto basta avere la gestione degli immobili di un partito, per esempio, nella fattispecie, per poterlo svendere a un prezzo ridicolo. Perché, sì, sulla valutazione dell'immobile, come lei sa, c'è una controversia. Alcuni dicono che è un prezzo congruo, altri dicono di no. Secondo me non è un prezzo congruo. Parla di 30.000 euro a metro quadrato, vogliamo dire 20? Ok. No, ma Alberto, già l'abbiamo fatta questa considerazione ieri sera, sicuramente non è un prezzo di mercato, poteva essere venduto meglio, diciamo così. Io penso che comunque c'è un riflesso molto importante, perché veramente a un certo punto siamo portati a pensare che non ci si può fidare di nessuno. Se io do ho capito. Lei pensa che la vicenda di Monte Carlo sia una vicenda politica importante, questo l'abbiamo capito. Alberto, grazie. Paolo, provincia di Grosseto. Buonasera. Buonasera. Buonasera a tutti. Dica. Vi ringrazio, intanto voglio fare i complimenti alla vostra organizzazione che ha avuto la pazienza di richiamarmi 3 o 4 volte, purtroppo sono in una zona dove il segnale non prende molto. Grazie a lei di averci chiamato. Prego, molto gentile. E quello che volevo dire è che io sono dalla parte di Fini. Sono dalla parte di Fini, ma sono anche dalla parte di Berlusconi. Io credo il che in questo Fini momento è un po' bizzarro, insomma. È un po' bizzarro, ma io sono una persona molto bizzarra. Infatti scrivo in un blog da 4 mesi, www.nonmollo.it, perché sono una persona bizzarra, perché le spiego subito, in breve sintesi. Io non faccio notizia, perché io non ho fatto operazioni di spin-off per fare uscire gli immobili della mia azienda che erano contestati dalla Guardia di Finanza. Io l'ho lasciati lì e sono stati venduti all'asta. Però io non faccio notizia, ecco perché sono bizzarro. Lei ha detto no, una però cosa molto giusta. Mi scusi Paolo, non ho capito adesso questa digressione sulla Guardia di Finanza, su... Ah, lo so che con la Guardia di Finanza abbiamo tutti un nome a sta. Io non ce l'ho. Io scrivo. Va bene, Paolo, lei scrive, abbiamo capito, lei scrive nel suo blog, bene, d'accordo, come fa? Non mollo quello che a me capita, so che non fa notizia. Va bene, però, d'accordo, però Paolo, che cosa ci, più, qual è il più, che cosa molto, ci vuole dire? Allora, qual è, cos'è che fa molto, che, cos'è che fa notizia? Fa notizia il fatto che stiamo parlando di 300.000 euro, anzi di 300 milioni di una casa venduta a 400.000 euro, che ha generato comunque una plusvalenza nel bilancio di AM e che comunque il signor Gianfranco Fini non poteva essere a conoscenza, perché vogliamo che il politico faccia il politico, vogliamo che il tesoriere faccia il tesoriere. Quindi il tesoriere riferisce al presidente del partito, però Paolo? Il presidente, mi permetta, ma il presidente del partito, oltre che a un certo punto rivolgersi al proprio tesoriere e gli fargli la domanda cosa ritiene, che sia giusto, cosa prega, lui va presso le agenzie monegasche a chiedere se il prezzo è congruo? Vogliamo veramente. Ho capito, la responsabilità finale è sempre del presidente del partito. Ma comunque, insomma, adesso lei dice, lei sostiene no. Sulla cifra a cui è stato venduto l'appartamento, Fini non ha responsabilità. È stata generata comunque una plusvalenza, ok? Che è andata sicuramente nel bilancio di Alleanza Nazionale. Per cui questo è un dato di fatto. È stata venduta una società di offshore, queste società di offshore non vanno bene, beh allora non le creiamo più, non le costituiamo più queste società, no? Ok. Se poi dopo dietro casa di Fini c'era magari Tulliani che ha imparato di questa società di offshore oppure ha approfittato della situazione, anche lì, ma che responsabilità ha il nostro buon Gianfranco Fini? Quale responsabilità ha? Ma parliamone, sa chi è che fa responsabilità a livello politico, a livello di case? Chi? Il signor, l'onorevole Di Pietro. L'onorevole Di Pietro, sì, lui sì. Ha comprato una casa a Roma. Va bene, d'accordo. E una casa a Milano, mi permetta, mi lasci concludere. No, perché non la lascio concludere perché devo riportare di una dichiarazione di Berlusconi di pochi istanti fa, che si rivolge a Futuro e Libertà, dicendo bene la posizione dei senatori di Futura Libertà che oggi hanno assunto una posizione leggermente diversa da quella del resto del gruppo, in questo modo sarà possibile l'unità, e poi dice rispetto degli elettori oppure scelte dolorose. Questo dice Berlusconi pochi istanti fa. Gli elettori non capiscono chi Farnetica, magari si rivolge a Bocchino e a Briguglio, e andiamo, la ringrazio Paolo, andiamo a Pescara da Giusto. Buonasera. Buonasera Cruciani. Dica. Ascolti, io la chiamo perché ogni tanto ascolto la sua trasmissione e malgrado lei mi irrita, devo essere sincero, perché è molto di parte, però è una persona simpatica, è una persona intelligente e l'ascolto con una certa continuità. La ringrazio, dica pure. Io volevo dire questo, io non capisco il motivo per il quale molti ascoltatori non si irritano per le cose che questo signore, io mi parlo di Berlusconi, riesce a fare, riesce a far patire a questo paese. Io faccio difficoltà, e lei questo non lo rimarca mai, a vedere le cose utili che Berlusconi ha fatto per il nostro paese. Però è giusto, parliamo di Berlusconi in generale oppure parliamo di qualcosa di particolare? Perché altrimenti, guardi, se vogliamo parlare di Berlusconi in generale, quello che fa, guardi, Berlusconi adesso, bene o male al nostro paese, non la finiamo più, lei lo capisce? Ha perfettamente ragione. Io comunque sono un anti-berlusconiano, e questo si era capito. Poi? Si era capito. Però anche nella faccenda che sta adesso, lui ha messo in pista questa campagna mediatica. Berlusconi ha messo in pista la campagna mediatica. Guardi, no, per carità, ma mica lo dice solo lei. Ma, Guardi, il giornale che ha scaricato, che ha iniziato questa campagna, è il giornale che fa riferimento alla famiglia sì. Berlusconi. Per allora... Allora io voglio chiedere a lei, ma secondo lei è normale che in un paese democratico, un paese importante come il nostro, un Presidente del Consiglio inizi una battaglia così drammatica nei confronti della terza carica dello Stato solamente perché ha avuto il coraggio di reagire alla sua enorme, diciamo, personalismo? Giusto, questa qua non è una domanda perché si basa naturalmente su... su quella che è la sua opinione di come si sono svolti i fatti, cioè dire Fini è la vittima e Berlusconi il mostro. E con questo suo intervento direi di chiudere per stasera. Ci sentiamo domani, sempre con la Zanzara Estate, alle 18, sperando di essere per l'ennesima volta più fortunati con Luciano Gaucci. Ricordati che devi morire. Com'è? Ricordati che devi morire. Va bene. Ricordati che devi morire! Sì, sì, no, mo me la segni proprio, c'è una cosa... Non vi preoccupate. Radio 24. La passione si sente.